Ora che aveva finito le sue cose, poi Adoni ha detto qualcosa e non mi ricordo cosa. Sirio? Non mi ricordo nemmeno io, onestamente. Ottimo, perfetto, la fiera della Microfono DHD. ce l'hai messo bene? Che ti sentiamo? Sì, Ok, ora perché? ti sento. Non ti Ok, sentivo. infatti. Era piano piano. Ok. Boh, cioè, stavate No, genericamente parlando delle vostre. infatti. Dovevamo far parlare Lieto, onestamente. Quello che c'ha almeno da dire è preferire, tipo. Eh sì, però toccava a lui, Oddio, oddio. Abbiamo detto senza segreti, quindi mi sa che ne ha un po' da denocciolare. Cioè, almeno niente che non sappiate già, se non mi ricordo male. Così, good boy. Ma Che simple boy. nemmeno nei miei sogni. Non quelli di Adone, i miei proprio. E Lieto si sta ancora trastullando con la magia che non conosce. Which was telecinesi, se non mi ricordo male. Very slight amount of rewind. E a questo punto Adone appunto si gira verso Lieto. Dice: oltre al fatto che tu sei collegato con la corona nera, nulla di che. Senti che ha un tono vagamente ironico nella sua voce. A parte quello, dice lei. Signore, vabbè, dubito voi sappiate chi è mia madre. Direi proprio di no. Tipo, vedi che Biff ti fa il bombastic side eye, no? Va Voi bene. due che non siete miei. Biff l'ha vista. Già. Lo sapeva in quel frangente che era. No. No, è ok, Sapeva infatti, niente. saprà No, niente. però secondo me può fare 2 più 2 tra le cose che ha fatto vedere sopra il negozio e adesso. Non so perché potrebbe farlo, però vai, continua Lieto, continua. No, aspetta, mi sta muovendo il cervello un attimo, che stacco questa cosa, altrimenti Vabbè. non c'entriamo. Sto facendo una cosa e posso fare due cose contemporaneamente. Non sei mica una donna. Concentrati sulla sessione. Esatto, è quello che sto cercando di fare. Ho spento tutto e adesso. Attenzione, finisce alla sessione. Allora. Anzi, come mi sono preso del tempo, apro anche tra la roba che devo aprire. Ora metto Take Your Time di Persona 5. Però 20? Ehi, 20? Ok. Ho aperto quello giusto, io, sì. E sì, no, non si stava aprendo, mi ha detto facevo cazzo, no? Aperto. Mia madre, come qualcuno avrà intuito, si chiama Promezia. Questa cosa l'avevi detta tempo fa quando era uscito? No, perché non era mai. Non è mai uscito fuori che tua mamma si chiama Promezia. Non era No. mai uscito. E No. l'unica persona che conosce quella promessa in questo momento era qui presente. No, ma Indico io questa cosa Promezia. non te l'ho detta in character, cioè Adone non direbbe una cosa del genere così. Vabbè, mi giro verso Mif. E vabbè, tu una promessa l'hai conosciuta. Tipo, vedi che pian piano sgrana gli occhi e fa: aspetta, aspetta, io non avevo capito fosse lei. È lei? E poi vedi un attimo che c'è questo. Fortunatamente è proprio lei. C'è questo silenzio, no? Tipo di stampa, e poi ricomincia e fa: ah, adesso capisco molte cose del negozio. Ne capisco veramente tante. Tipo il dito. No, cos'era? La mummia? Sì, la mummia. Sì, diciamo che non tutti gli oggetti del negozio, però sono proventi strettamente legali. Non tutti, non tutti. Che mi frida che fa? Non lo immaginavo. È carino però come posto. Sì, non ci devi lavorare dentro come garzone, qualcuno viene a questi coglioni in 2 minuti, è molto simpatico. Sì, il negozio è il front per il riciclaggio della mafia. Adoresso. C'è idea, in realtà, perché... non era programmata, probabilmente. Lei dovrebbe essere... era familiare a qualcuno anche del gruppo precedente, in realtà, del primo gruppo di persone che ho conosciuto. Che ho conosciuto con Adone. Familiare a chi? Beh, a Naya che mi ha portato lì. Aspetta, Naya aveva una zia di nome Promessia. Sì, no. Ma non è la stessa persona. Ok. Sono due Promessie diverse. Non è quella Promessia. Però erano imparentate queste sì, Promessie. Era... erano moglie? Erano sposate? Cosa? Fermi, questo sono io che registro così. Erano... aspetta. Davvero? Sì. E ho il cugino di... E quindi la mamma di Coso, di Lieto, ha tradito la moglie perché... No, prima. Questa è Sara che parla. Lieto no, non era nato prima del matrimonio? Molto prima. Il matrimonio è di 4, 5, 6 anni fa. Esatto. Ah! 10 anni prima del matrimonio nasceva. Ah, ma quindi questa è la... scusate, questo sono sempre io che sto parlando ad Adone, ma quindi questa è la famosa moglie di Promezia? È un'altra Promezia? Sì. Vabbè. E c'è un altro... non si chiama Promezia. Grazie. Si chiama Pernoe. Ma il nome che usa è Promezia. Questo l'hai detto in game? O... Sì. Sì, questo è e Adone... scusate, torno in game, giuro. E Adone dice, perché si fa chiamare Promezia? A quanto pare... non l'ho mai chiesto, onestamente. Esatto. C'è un motivo, ma non sempre... lo sa. Sì. Ho sempre dedotto che fosse appunto per non mischiare lavoro e famiglia. Ecco. Ok, capisco. Altro? Beh, Ivan era tuo padre. Questo è mezzo game per ricordarlo da Adone. Che? No, lo so che Ivan è... No, lascia stare Ivan. T'ho parlato sopra perché è un altro motivo. La Promezia in questione era la tipa che era al contatto di Zanzan. Sì, no, questo lo so. Ok. Erindor. Ti ricordi il finale? Certo. Il finale di Erindor? Ok, è quella persona, la madre di... No, ma io lo so. Okay. Sì, questa cosa lo so. Era per mettere in pari? Sì, è che io ragazzi un po' mi perdo. È tipo una campagna che va avanti da un anno con 1000 personaggi con lo stesso nome. Sette però, personaggi no, questa con lo stesso cosa nome. La so. È che Adone non sa sta roba, quindi... Non credo possa fare il collegamento, meno che non glielo dici. Anche perché non lo sa. Sì, no, non c'era. Cioè, qual è sì, successo? Non hai molti personaggi. L'intermission cinematografica di fine capitolo. E, vabbè, comunque, tornando in game, c'è appunto... non Ivan, Dio Cristo. Zanzan era tuo padre, ma hai detto che non l'hai mai conosciuto, giusto? Cioè, no, prima. Ho saputo che era mio padre una settimana scarsa prima che ci incontrassimo io e te. E... per noi me l'ha tenuto nascosto per tutta la vita. Capisco. Scusatemi. Oltre a questo non... c'è veramente nient'altro che... pensi sia importante da condividere? No, non mi viene in mente niente di... familiari, amici con poteri particolari che pronunciano formule magiche strane? No. Allora, ok, va bene. Gli Yeto non l'avrebbe mai detta, però, questa cosa. No, no, allora... cioè, tu puoi scegliere di non dirla, eh. Cioè, stai mentendo. Nel senso, non vorrei... non è una menzogna quella che sto dicendo, è solo che a Yeto non gli sarebbe mai venuta in mente. Okay, è venuta in mente a me perché... me l'ha detto, cioè, perché no, no, sono no. Off game, ok? Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, non dire un cazzo. Ok. Scusa, mi scappava da ridere. E... 5-10, 5-1/4. Vedete i due che avete mandato dentro il tempio a risalire. Ok. E lei è sconsolata, cioè non è frizzantina, allegra, eccetera. Lui invece ha proprio il volto, lo sguardo assorto, cioè sta pensando a qualcosa. Ma è lei a parlare. E dice... ah, abbiamo visto il tempio sotto al tempio e non c'era nessuno dei pezzi del puzzle che avete detto. Dove cazzo l'avevate viste le incisioni? Sulle pareti. Le pareti sono lisce come il marmo. Si vede che abbiamo avuto una svista oppure... abbiamo avuto delle giornate un po' complicate fra viaggi e altre cose. Si vede che abbiamo avuto una svista. E venendo qua, tra l'altro, ci sono stati offerti degli immanapenni molto strani. Abbiamo visto un po' di cose che non dovevamo vedere, probabilmente. Sì, che qualcuno ha anche deciso di accettare, cosa che non faremo mai più, giusto? E guardo Lieto e Mif. Oh, vero, vero, vero. Mif che fa spallucce, tipo... Ah. Non accettate caramelle dagli sconosciuti. Siete tutti dei pessimi bugiardi. Yona, che è l'altro, dice ho studiato a lungo le divinità antiche, c'erano dei libri nella sezione proibita della Auster e c'erano tutti i simboli di Arva, tutti i segnali che... Vabbè. Avete per caso completato un rituale per evocarlo? No, no, cioè, abbiamo pigiato delle cose a caso così, se poi è stato completato per sbaglio noi non lo sappiamo, ecco. Cerco di entrare in character, è difficilissimo. C'è stato un terremoto, magari è successo qualcosa che ha cambiato le fondamenta del tempo. Può anche essere stata colpa del terremoto, effettivamente, fuggendo da quella situazione dove è arrivato. Se doveste avere dei problemi, credo di essere la persona che ne sa di più al riguardo. Altrimenti ci vediamo. Problemi e inizia ad andarsene, genere? Fregandosi. Problemi di che genere? Non ti sta rispondendo, sta andando a scendere le scale. Minchia. Ok, no, Mif gli corre dietro, tipo lo prende per il colletto, lo tira, no, e fa... Tu non te ne vai da una conversazione così. Problemi di che genere? Siete voi che non volete parlare. Ti abbiamo detto la verità? Non lo avete fatto. No! Senti, adore da lontano che dice no! Parziale, insomma. Cioè, non era una menzogna quella del terremoto. Neanche quella delle pareti lisci. Neanche quella di fare cose a caso. Esatto, esatto. Credevo che vi interessasse di più di sfruttarci e basta, ma anche il fatto che ti interessa tenermi qua e parlarmi solo quando sembra che ho delle altre informazioni dimostra di più il mio argomento. Alchimif si, diciamo, raddrizza, perché per fermarlo, insomma, si era un attimo ingubbita e fa... Non posso darti torto? Ho delle ricerche da svolgere, per cui se non è un problema vorrei andarmene. Buona giornata, Yona. Si gira e inizia a scendere gli scalini. Marika è molto più confusa, non lo ha mai visto agire così, quindi è proprio una scena anime tipo... rimane lì, con voi, guardandolo andare via. Insomma, è sempre così zondere. No, non lo è mai. Quindi questa non è... Avevi visto qualcosa? Sì, sembrerebbe che qualcosa abbia colto la sua curiosità. Beh, allora vuol dire che è stato più fortunato, insomma. Insomma, non c'era niente di interessante, non ho idea di cosa possa aver visto. Però lui se la cava con la biomanzia, quindi se ci sono tracce di vita dovrebbe riuscire a percepire cose che io non vedo. Di vita includo del sangue per caso. No, boh, forse sì, però più che altro riesce a percepire la forza vitale degli organismi. E se Ok. vede qualcosa che è strano, forse ha unito i puntini in modo che io non sono riuscito a fare. Non lo Può darsi. Forse ti conviene parlare lì col tuo amico. Sembrava abbastanza sotto shock. mi interessano di più altre cose comunque. Quindi, problema suo. Ci vediamo, cercate di non prendere troppa pioggia. Grazie del pensiero. Buona giornata. Rinizia a scendere le Ma scale. Marica, giusto? Sì. Suppongo che abbiamo un po' tutti motivo di tenere nascosto quello che sappiamo, però spero che in futuro questa collaborazione potrà continuare. Non credo di avervi tenuto nascosto niente. Ieto sta tipo diventando grigio e sta fondendo con il muro. Vabbè. È tipo in una soglia, lei tipo. Non è successo niente. Su Yona Non tu, nello invece. specifico. Su Yona non posso garantire, d'altronde è sempre stato un po' particolare, si perde molto nella ricerca e a studiare libri strani, e poi sui giornali, madonna, i giornali. Sì, abbiamo visto, l'abbiamo conosciuto per quello. Non si può biasimare. Esatto. Niente. Ciao. E vabbè, possiamo tornare in un posto che non sia questo, possiamo andare, I guess. Beh, Mif credo debba ancora condividere con noi la sua storia di vita, magari ci aiuterà a dare, come si dice, shed light in italiano, Fare fare luce. Dare un po' luce, di esatto, luce. fare luce un po' anche su questi suoi comportamenti un po' più, secondo me viene il termine, vabbè, un po' più particolari, e fa un piccolo sorriso falso come Giuda, ma ovviamente con la risposta. Mif Come della Giuda. serie che alza un sopracciglio e scuote un attimo la testa e fa: beh, la mia ricerca è basata sui sogni. Ho passato tutta la vita a interessarmi delle culture in modo tale da poter accrescere la mia conoscenza e ricerca. Ho fatto degli incontri particolari e sono finita qui. Ah, sì, beh, ovviamente sono la figlia di Moira Standout, che ha l'azienda Medikit. Lo avevamo capito. Già. Ce Vedete, l'aveva Mif che alza un già po' gli occhi. spoilerato anche la sacerdotessa. Esatto. Mif fa un po' spallucce, fa. Purtroppo. Perché Qualche problema con la questa. No, famiglia? solo pressioni. perché questa tua sete per la conoscenza? Un obiettivo. Del tipo? Mif che non cerca di non essere criptica, be like. Adesso Adone Esatto. si suicida, esplode, diventa un dio, la prende e gli spappola il cervello. Beh, il mio ambito di ricerca non è preso in considerazione dalla nostra società, di conseguenza sapere di più magari può dare opportunità. Quindi stai cercando di ottenere più conoscenza possibile in modo tale da rendere la tua ricerca sui sogni importante per la società? Sì, penso che emozioni e sogni siano estremamente correlate tra di loro. Tra l'altro, tu ne sei la prova. Tipo, e ti indica. E avrei che fosse una materia studiata. Tutto qua. fossimo stati in un altro luogo, in altri contesti, in un'altra situazione, avrei trovato ammirevole la tua ricerca e probabilmente avrei cercato di collaborare con te. Lo hai già fatto. Purtroppo. Questa cosa devo ancora decidere se me ne pento o ne sono felice, ma purtroppo per il momento tendo verso la seconda opzione. Se hai bisogno di cavie, io sono disponibile. Grazie, Nibel! Biff fa tipo un sorrisetto, ridacchia e fa un cenno col capo e fa: lo terrò a mente, Nibel. Se dovessi sognare un dio in particolare, te lo faccio sapere, comunque. Ah sì, è vero, fai i miei contatti con Arva e... beh, qualche diavoletto. Questi qua. Sono gli incontri particolari di cui parlavi? Sì. Com'è che hai avuto connessioni con Arva? Nel senso, fino all'altro ieri non dovevano esistere le divinità. Beh, mi trovavo in questo treno che era da Lumiera ad Oclica, giusto? O era da Oclica ad Apeira? Da Lumiera ad Oclica. Grazie, da Lumiera ad Oclica, dove praticamente c'è stato una sorta di attentato e questo pazzo, perché non lo si può definire in altra maniera, ha preso me e altre tre persone, le ha intrappolate in questo giochino di cattivo gusto. Dovevamo risolvere degli enigmi fino appunto a evocare... Sei storto! Ho visto! Brillante, di wow! Prima che il... Che i fendinebbi accesi. Che palle! Che coglioni che fate venire, tutti qua! Mi ho fatto un complimento con l'altro. Alla fine di questo giochino di risolto è stato evocato Arva, che ha praticamente riavvolto il tempo e mi ha detto di venire qua davvero. Sul treno? Senza tempio? Sul treno. No, cioè, oddio, eravamo fuori dal treno, tecnicamente. Non so di preciso dove. So che eravamo sottoterra. Ok, è completamente un'altra situazione quella che hai descritto poco fa. Mif l'ha espressa malissimo. Quello che è successo è che il treno ha fatto un incidente perché c'è stato un attentato terroristico. L'hanno rapita, l'hanno portata sottoterra. Non sa dove, perché chiaro, sì. Hanno riavvolto il tempo, si è dimenticata questo altro dettaglio, per cui tutto quello che ha detto non è mai successo. Esatto, aveva dimenticato un paio di passaggi fondamentali per far capire la storia a chi non l'ha vissuta. Facciamo che voce... ha rispiegato sta cosa, Mif. La voce della mia testa ha chiarito tutto, grazie. Prego. È stato rivelato in un sogno. Il mio esatto. Narcolettico si è trovato per 10 secondi e è tornato. Ho capito! Claro, ci siamo pronti. Forza, chi devo picchiare? Niente, diciamo che questa scoperta dell'esistenza delle divinità non è che mi ha fatto né caldo né freddo, considerando cosa avevo conosciuto diversi anni prima. E cosa avevi conosciuto, Mif? Si chiama Yadamach. È il demone dei desideri. Diavolo dei desideri. Grande. Scusa, Yadamach. Scusa. È stato duro. Sta facendo così tanto rullare. La odio, spero esploda. Sì, porco dio, Info Hazard, come fossero carte da gioco. Esatto. Questa è una bomba nucleare, tieni. Sì, sì. Io vado, mi trovo in cucina. Infatti, come lo spalluccio. L'ho trovato vicino a casa mia, sotto un lago, e poi in gulag. Ogni cosa che scopro di te, Mif, è così da persona senza raziocinio e senza una concezione di sé, eppure sei arrivata fin qua, quindi qualcosa di giusto lo stai facendo, chiaramente. Ora ti tocca la fronte per sentire se hai la febbre. Vabbè. Tipo... No, no, no, Miff. Miff che tipo prende il polso di Ora molto gentilmente, glielo stacca. Ok, sto bene. Sei un È po' un calda, normale però. giorno. Miff che ti tocca la testa adesso. Ci sono mostri nel mare, sottoterra, suppongo che ci possono essere demoni nei laghi. Suppongo. Allora guarda, no, sono un po' una cosa diversa. Tecnicamente non è so un la differenza, diavolo. Sono un campagnolo. Tecnicamente è bell'argomento. Adone giustamente mansplaining e dice: ma tecnicamente i mostri marini dovrebbero essere animali o comunque creature di questo mondo che sono influenzate dalla magia. Quindi non sono una cosa ben diversa da demoni e divinità. Diavoli, diavoli, si chiamano diavoli. Diavoli. E cosa sono i demoni? Ah! Non diciamo, non apriamo questo argomento. Scusate. Che matto. Non avevamo già stabilito fosse la solita cosa. No. Solita cosa. Sto parlando di game come Ora, Esatto. Allora, scusami, sto guardando il fight in realtà, tipo perché questa discussione è già avvenuta. Tra di loro non mi ricordo con Ora. No, sì, con Ora presente no. Non c'è Ora okay, presente. Ok, fatto. E qual è la soluzione? Non lo so, Adone dice c'è una differenza, non so quale, ma c'è una differenza. Demoni e diavoli non sono la stessa cosa, e demoni, diavoli e divinità si differenziano tutti fra... Vi vedo tutti molto stanchi. Se andassimo a dormire? Sì, direi che è meglio. È già sera. Sono le 5. Sì. Però piove ed è... Il 16 di ottobre? Sì, è il 16. Quindi sì, fa notte relativamente presto. Non ancora così tanto, però sì. No, no, relativamente. Quindi, cioè, è sera. Cioè, alle 15 sta calando il sole. Per me va bene, la mattina però sarei interessato a cercare più notizie sul grande capo. Se mi fai un roll di 10 di mente? Roll di 10 di grande mente. Capo, Arva. Sì, il mio grande capo. Oh, wow, il bro. Il bro. Più 2. Ah, devo aprire Roll 20. Non so se te lo ricordavi, te lo ricordo io nel caso perché è andato bene il roll. Tu avevi un appuntamento. Lieto se l'hai dimenticato. Ica non ne ha memoria. Bene. Wow. Così. Ma nemmeno io. Quale appuntamento? Con la ragazza. Nulla. Quale ragazza? Non è successo nulla. Questi non sono i droidi che stai cercando. È vero. L'avevo dato appuntamento alla chiesa. Chiesa. Alla chiesa, alla chiesa. Ma per dire che se te la vuoi giocare, sennò... Vabbè, comunque questa cosa intanto l'ho detta. Sì, cioè, sì, nel senso, sì, era una cosa che avrei voluto fare, quindi... La mattina qualcuno busserà alla porta e io aprirò, tipo... La mattina. E... Basta che te lo credi te. Dicevo, riscendete le scale e siete al punto in cui dovete decidere se passare da fuori, come avete fatto le prime volte, o da dentro la città. Da dentro, almeno così siamo più parati per la pioggia. Non ci sono i portici, non siamo in Italia. Peccato. Manco tipo i tetti leggermente spioventi proprio. Ma secondo me non tantissimo. È più facile che passi in un mercato dove ha messo delle tende. Ok. Non credo che con la pioggia ci sia tanta gente fuori, quindi possiamo passare anche dal centro. Ma sì. No, non ho niente in contrario a passare dal centro. Beh. Andiamo, andiamo. Anzi. Probabilmente è un posto più. Passate dal centro, vuol dire dalla città alta. Sì, questo gesto era strettamente necessario. Grazie per io avermi prendo... fatto. Prendo il lieto da parte un secondo. E gli chiedo... Saresti libero dopo? Dovrei chiederti una cosa. Certo, sì, non c'è problema. Cioè, anche adesso in realtà se vuoi chiedermi qualcosa. Visto che tu hai un po' di allacci con la malavita, questo genere di ambiente, hai mai sentito parlare di un tizio che si chiama Adelfo? Scriseto? No, però probabilmente potrei farmi dire qualcosa, comunque aiutarti a cercarlo nel caso. sarebbe comodo. Era... vabbè, poi ti spiegherò. Non è importante allora. Fammi sapere se lo dobbiamo ammazzare prima o dopo, però. Cioè, perché essendo un problema con la mafia, capisco che da quello che mi hai raccontato potrebbe non essere una bella situazione. Ma non so se... si creano spiacevoli situazioni... Non so se ha a che fare con la mafia, però era un tizio a cui abbiamo dato la gestione dei campi. E quando la situazione è andata un po' tutta puttane, quando la malattia si è diffusa, ha avuto la grandiosa idea di scappare con buona parte dei soldi della mia famiglia. E chiaramente non faccio la mafia. Sì, però... c'è una probabilità molto alta che lo fosse. Preferirei non morisse prima di dirgli le sue ultime parole. Per Lieto, cioè, non c'è problema per Lieto. Non è che gli freghi particolarmente di mafioso generico X. Però ti fa sapere che dipende probabilmente a che livello è, magari. Sì, è quello il problema. Potrebbero esserci problemi annessi a sistemarlo in qualche maniera. Okay? Prima informazioni... e poi vediamo come muoverci, o come muovermi. Non è detto che dovete aiutarmi per forza, è una questione personale. E accompagnato fino ad oggi, trovarti informazioni su questo tipo non mi pare una richiesta eccessiva. Ti ringrazio. Pacca sulla spalla, Nibel. E adesso andiamo a mangiare! Che il mio Dio ha fame! e mangiatone, perché è la cosa più vicina che c'è. Mi fate tutti... Chi l'ha sentita questa conversazione? Io l'ho preso da parte. Okay. Non perché, cioè, infatti, perché quindi... non era una cosa rilevante, non la stavo tenendo nascosta. Quindi Lieto fa roll. Gli altri chi voleva origliare? No, io contavo ora. Che magari stavo conversando ora con ci sto. Ora rolla. Sì, ora rolla. Ora rolla 10 sul dado. Di nuovo ora, vai. Ora sa. E mi porto su Ica un secondo. Ricordi quando hai detto che non ti ricorda un cazzo? Mm-hmm. A te niente. A Lieto gli si accendono le sinapsi e si ricorda che quando il prete si è presentato, il suo cazzo di cognome era Schiliseto. Il prete della chiesa? Quello di Yelos, quello dove state andando a dormire. Ok. Quello da cui siamo usciti. La chiesa Sì. Okay. E fai quello che vuoi con questa informazione. Alla fine è un cognome. Cioè, non vuol dire che sono la stessa persona o che sono... Dimmi il cognome, tra l'altro, che... Schiliseto. S-K-I. E... fatto 9... No, basta, non ti dico nient'altro. Andiamo di sotto? Vabbè. Non ce l'avevo. Scusatemi. Bravo. Ho ascoltato 8 euro. Non so se vedi, ma qua c'ho il poster della Super Giant 10 anni anniversario. Io ho giocato soltanto come cazzo si chiama? Transistor. Ho giocato solo. Bellissimo. Noi li abbiamo giocati tutti. Io quello per cui ho pianto di più è stato Pyre, però. Pyre mi ha distrutto. E mi spoilerate Transistor via mano. No, non ti spoilerò niente. Non ho detto nulla. Ho detto solo che è l'unico che ho giocato. Io ho comprato Hades oggi e basta. L'unica cosa che ho detto. È l'unico gioco di quel genere che voglio giocare, perché mi piace davvero tanto la grafica, tipo. È molto bello. Esatto. La Transistor è un... cioè, non è un roguelike alla fine. Storia, gioco basta. A turni? Sì, cioè la storia è lineare, non è come Hades. Riprendiamo. Lo finisci tra l'altro tipo in 12 ore, cioè dura un cazzo quel gioco. Sì, molto. Forse pure meno. Ok. Riprendiamo. E mentre ci stiamo allontanando, Nibel vede che Lieto tipo si gira, gli prende tipo la spalla, ma veramente... No, mi sono sbagliato. Tutto a posto? Sì, no, è un cognome che ho già sentito, però... probabilmente il prete della chiesa che ci ospita ha quel cognome, però è un cognome comune, immagino, a queste parti, quindi... Lo sapevamo? Non ci ho mai fatto caso? probabilmente non ci ho mai fatto caso. Dovrò fargli delle domande se ora non lo fa svenire di nuovo. Non mi permetterei mai. Ora sta mentendo. Se volete posso aiutare? Magari addormentare è meglio di svenire. Che dici ora? A vedere. Passo per volta, un passo per volta. E pensavo che avessi occhi solo per i miei disogni, Mif. Madonna, sei già geloso. Ma no, era una battuta, ragazzi, stavo scherzando. Vedo che le mie doti magiche sono molto richieste. Madonna, tu hai anche un marito, non dovresti fare queste battute. Tu hai un marito, non dovresti fare queste battute. Sei un uomo sposato. Mi fannuisce piano piano. Esatto. Non andrei mai con Mif. Non è il mio tipo. Non è un uomo, tanto per cominciare. Posso diventarlo? Sì, effettivamente averci un tipo in questa cosa è... Vabbè. Perché stiamo parlando dei miei gusti sessuali? Andiamo avanti, per favore. Chiaramente hai un debole per... Vabbè, magari sono gli avatar che ti piacciono, chiedo. Esatto. Quindi Mif potrebbe avere una chance. E dà una pacca sulla spalla lieta. Adone, vedi proprio sì. Vado un attimo, Adone. No. Mi tiro una gomitata lui. Sullo stinco. No, sullo stinco, che cazzo. Vado giù. No, gli tiro una gomitata nelle costole. Smuta per te la tirata gomitata e si ritira su. Atleticissimo è diventato Adone. Ha perso 32 kg di metallo. È diventato una faina. È tipo Rock Lee, quando il corpo si abitua a tutto quel peso, cioè la massa muscolare è aumentata, adesso in 2 giorni, vabbè, a parte che tanto si è riavvolto il tempo, quindi come funziona. Ora commenta, ma qui ti senti bene? Cioè la magia di guarigione ti ha rigenerato per bene? Mi sento bene, Master? Sì! Ma come vuoi? Cosa ti devo sentire? Come vuoi. Ah, sto morendo, cado a terra e muoio. In quel momento è la fine. Come funziona la magia di guarigione? Cioè, tipo, non è che il corpo non dovrebbe tipo riprendere tutti i nutrienti per... Bella domanda. Dovrebbe avere una fame fottuta in questo non momento. Non siamo in Dungeon Mesh. Accumuli fatica, quindi c'hai tipo i muscoli che non ne possono più. Okay. Ma non mi sembra che io mi senta così in questo momento. No, sei stanco come una persona che ha 3 punti di vita su 40. Ok. Hai bisogno che Nibel ti porti in braccio lieto. No, vabbè, cioè, cammina. No, sto bene. Devo solo andare a riposarmi, come tutti voi del resto. Mm-hmm. Io stavo già facendo tipo la scaletta per salire a Doni in spalla e tipo, vabbè, è uguale. No. Lieto, per favore. Così tanto privilegiato, dovresti sentirti fortunato. C'è la scala, ora la salita, per andare nella piazza alta. Ora, io non so chi di voi si ricorda cosa avete visto l'ultima volta nella piazza alta, è cambiato qualcosina. Piove, quindi non c'è nessuno in giro, ci sono tipo delle locande piene, si sente casino già da 2 blocks away. Nella piazza, io non vedo l'ora di fare sta scena, c'è un tizio. Un essere umano crocifisso con i chiodi o crocifisso con le corde? Con dei bei chiodi sui polsi, chiodi. Bello appeso, okay, sanguinato. Sì. E vestito di nero. Ed è l'unica persona che c'è nella piazza che si sta godendo tutta la pioggia che cade. Questo è, immagino, quello che avevamo. Avevamo, esatto. Fatto qua. Di poco gusto, come avevo detto prima. E lieto tira tipo di... Lo lasciamo lì? No. Tiralo giù ora. Ho comunque fatto un giuramento. Non mi piace lasciare la gente morire. Mi guardo attorno per vedere se ci sono guardie o qualcuno nei vicoletti. Piove osservare. Non così forte da non vedere un cazzo, ma piove abbastanza che non c'è nessuno intorno. E cioè le cose lontane non le vedi benissimo. Quindi se c'è qualcuno nascosto, faresti fatica a identificarlo. Okay. Per come la vedo io, ho avuto la sua occasione di essere sincero quando gli hai fatto le domande, Nibel. ripensandoci però, se ti servono delle informazioni sulla famiglia nel luogo, in questo luogo, siccome non è il mio, e se lui è davvero un membro, se è ancora vivo, potrebbe essere una buona chance per Nibel per avere quello che mi chiedevi prima. Uno scambio di favori, intendi? Non sarebbe male. Non sarebbe male, potrebbe darti delle informazioni che ti servono, o potrebbe essere perfettamente inutile, possiamo anche riappendere la croce, non è un problema. Ah sì, si può, possiamo aiutarlo. Ora è andata e lo sta guardando dall'alto in basso, comunque è in crocifisso un pochino in alto. Ehi! Ehi! No, Oh! Le metto la mano davanti alla bocca, tipo corro. Zitta, stavo... aiutiamolo, ma piano, cazzo, non vogliamo che arrivino le guardie a fare del male a noi e a rimettere lui sopra. Ok, la lascio andare. Volevo solo sapere se è ancora vivo. Non c'è un metodo magico migliore di urlare al tipo? Devo usare dell'altra magia? Basta. La croce com'è? Tipo infilata in una zona di terra? Con la croce? Impiantata in terra, sì. Ok. Beh, togliere un chiodo può far svegliare o svenire la persona, no? Qualcuno sì. Vuole salire? Immagino di sì. Le mie opzioni sono limitate al dargli fuoco e dargli fuoco. Ok, salgo io. Nidol, dammi uno strappo. Sì, mi faccio da lift. Lord. Ok, mi fa, insomma, si stabilizza un attimo come meglio può e poi, tipo, cioè, a che altezza sono di sto tizio? No, lui è 50 centimetri sopra... Cioè, non è un metro in alto, è 50 centimetri sopra, cioè i piedi, tra i piedi e il terreno c'era mezzo metro. Quindi liftando, ah, okay. Cioè, tirando su le mani ci arrivavi probabilmente alle braccia. Ok. Biff tipo gli mette un dito sotto il naso per sentire se respira. Si sta respirando. Ok, e allora, cioè, gentilmente gli picchietta la guancia. È vivo. È bendato. Buongiorno. No. Ehi, siamo quelli di prima. Siete tornati a torturarmi? No, ma se fai il bravo ti liberiamo. Apre gli occhi, ti vede. Ah. Miff che sta sorridendo veramente come una volpe. Andate a cavia per il più laboratorio. Esatto. Non so come posso esservi utile. Sei della buona vita? Ti ricordi la domanda che ti ho fatto oggi? Ne ho passate tante oggi, rinfrescami la memoria. Come dice la mia amica qui, per parte della malavita. E in modo collaterale. Direi che è abbastanza. Quindi lo liberiamo? E guarda lieto. Va bene, va bene. E lo preferite? Se gli togliamo i chiodi, questo ci muore dissanguato, ma deve andare a casa. C'è ora qui. Ho ancora un paio di spell. Ancora un paio di spell? Se te la senti, altrimenti ci portiamo la croce per intera. No, non mi, mi sembra il caso. Come non attrarre sguardi. Era la mia prima idea, però poi ho pensato di farlo. Tacchiamo i pezzi di legno, ma mi sembra comunque l'idea pessima. È più facile portarlo, e soprattutto che non si reggerà in piedi. Dai, stacchiamo. Ma Nibel è forte qua. Stacchiamo i cosi. I chiodi. Sì, stacchiamo i chiodi. Non abbiamo degli strumenti. E Nibel, mi dai il piccone? Magari col piccone tipo a piedi porco, no? Cioè, a mo' di piedi porco. Vuoi dire cosa non è equipaggiamento? Se ha il pezzo dietro che è fatto a piedi porco. Sì. No, ma praticamente non tutti i picconi. Sono anche i picconi che sono solo due lati, accuminati. Dietro c'è un fucile a cane mozza, il piccone di Nibel. Così. Non funzionante, cioè a forma di... C'ho un sacchetto di chiodi e un martelletto, se vogliamo. Pronti, perfetto, è il suo. A posto. Però c'ho il martelletto, secondo te, è tipo quello tozzo? Sì, o sì, quello sì, con... No, c'ha il gancio. Gli passo il martelletto col gancio. Magari okay, questo può aiutare. That's very convenient. Niente, Miff inizia a staccare, secondo me, esatto. Miff, addormentalo, ti prego, così almeno non sentiamo. Vi addormenterei tutti. Quanto ci dobbiamo allontanare? Troppo. Cioè, in fondo alla stalla. No, no, no, sono sicuro che lo regge bene. Dai, dai, svelta, svelta. Fa più veloce che può. Tipo, possiamo ficcargli un fazzoletto? No, Adone gli mette un fazzoletto pulito in bocca. Da... Io non mi sono i feri di Adone, tra l'altro. Eh? Cioè, mi sono i feri di Adone. Io sì, ma figa, non gli posso dare la mazza! Guarda che i miei sonniferi sono potenti. Belin, questa è inchiodata, no? Che voce c'è? No, no, ma il metodo lo ammazzano. È vero, eh? Mi adone qual è il livello, tipo inchiodata, no? Che voce? No, non sono ancora... Non è ancora il momento. Ma non è quello il punto, è veleno, bro! Che succede di peggio a questo? Muore per i miei sonniferi! Ci sta, ci sta. Scusami, mi ha fatto magari ridere tutta l'interaction. Siete nel mezzo della piazza con una croce e sta diluviando. Beh, qualcuno gli metta un panno in bocca prima che si... È quello che ha fatto Adone! Gli devi togliere anche il chiodo sulle caviglie, altrimenti se lo guarisco col chiodo lì è un casino. Giusto, tipo Miff hop down da Hannibal e toglie anche questo. Io lo tengo dal... Cioè, okay, okay. Tipo al busto, sotto le ascelle, tipo, con sì, le mani sì, alzate. Sì, sì, allora sì. Lo tengo da lì in modo che non cade. Lo guarisco, lo guarisco. Il tizio sputa una palla di sangue a questo punto e i tessuti iniziano a rigenerarsi, al punto che riesce anche a camminare e appena smette di tossire dice che comunque morire non era un'alternativa brutta, eh. Dai, su. Ho che era andiamo all'asciutto. Se vuoi, Nibella, i chiodi ti possiamo rimettere dove eri. No, no. Grazie. Ecco, bravo. Oh. Allora, adesso non inizia a fare quello con le mani bucate, però, eh. Ha iniziato a grandinare. Nibel, per favore, chiedigli cosa gli devi chiedere. Mandiamo al coperto. Esatto, esatto. Se dovesse essere un problema, lo prendiamo a spallucce e lo portiamo fino alla chiesa. Portiamolo fino alla chiesa! Ok. Tanto non ha meglio di fare il nostro... Non ha niente di meglio da fare il nostro amico. No. L'alternativa, la spallucce. Possiamo far diventare una chiesa, una taverna. Anche perché poi ci trovano subito. Accoglie i disgraziati. La chiesa. Sì, ma non lo no, no, no, bella idea. Ora sta dalla parte di Adone. Sì, secondo me è meglio non portarlo alla chiesa, che se no ci trovano. Quindi è meglio... Che altro posto abbiamo? C'è pieno di locande qua. Ne abbiamo viste 15 solo passando. È ricercato. Una locanda è chiaramente l'idea migliore che andare alla chiesa. E... Posso prendere il fazzoletto? Ti prego, tanto sarà sporco di sangue. Sì. Ok, gliel'ha messo in testa. Ora sei un imbecille. Non lo possono riconoscere al volto coperto. Ora, ma dove cazzo sei cresciuta? Dietro di te questa cosa è tipo... Non è possibile. Gli faccio anche il fuoco sotto. Eccolo qua. A posto. Io ora... Sta grandinando, per favore, troviamo un altro posto dove andare. Diamoci un appuntamento, voglio andare a casa, sono stanco. Tu hai una casa? Oh, no, casa. Ovviamente! Che è meglio della chiesa, a sto punto è della locanda, probabilmente. Chi controlla la casa di quello incrociato? Incrociato. E qui vicino vi faccio strada. È sicuro? Vai. È una casa non tanto grande. Non parlo di struttura, chiaramente. Sto parlando di la gente che conosci. È sicura? Diciamo che quando devi dei soldi alla Corona Nera ci sono pochi luoghi sicuri. Ok. Qual è il tuo nome? Mi chiamo. Ce l'avevo scritto da qualche parte perché non me lo ricordo. Datemi un secondo. Tabella dei nomi, roll di No, ma 20. perché mi sembra di averlo scritto il nome del tizio. Scusate. Mi spiace, tu non segui me che generi quattro nomi di cavalli in 2 secondi. No, ma perché se l'ho già detto non vorrei cambiarlo, altrimenti ci metto un attimo a No, dargli un altro non sapevamo il nome. nome. Ah, ok. E l'avevi detto, non ce lo ricordiamo nel caso. Non Avete penso che ci immaginato abbia che non ce detto il l'avesse. nome. Cioè, mi sembra Neanche io proprio non ce penso ci l'avesse abbia detto. detto, no. Avete 3 secondi per dirlo, se ce l'avete scritto, ne rimangono due, ne rimangono uno, si chiama Donos. Dimmi. Se Ma fosse veramente Donos. non c'era un nome migliore di Donos. Si chiama Donos. Vabbè, povero Cristiano, ci credo che l'hanno appeso. Che l'hanno gonfiato di botte 3 volte oggi. Ma Cristiano è ora. L'hai capito? Niente, vabbè, Fa è una ridere bella perché. battuta. Oh, okay. Che la sua religione è quella che si avvicina di più al cristianesimo. Bella battuta! Lo fanno anche da uomo? Mica come te. Io adesso Wow. vado. È finita. Mi Ora sparo persona e divento sono. mia. Tocca, è l'unica. Tocca, State basta. andando a casa di Donos. Bel nome invece, che cazzo volete? Vaffanculo. A me viene in mente la parola donut, cioè la ciambella in inglese. Infatti gli hanno fatto più di un buco. Wow. Riprendiamo. Sì, scusami. Topologico, tra l'altro. È un tipo, anzi un topo. Sì. Sacco. Casa sua è in una zona residenziale molto vicina al centro. E è uno di quei casermoni alti, 5-6 piani, che per gli standard di questo mondo sono altissimi, dove ci vive della gentaglia, cioè sono case molto piccole, appartamenti molto piccoli, molto crowded. E al terzo piano di questo casermone, tira fuori le chiavi, scasina, apre la porta e casa sua è una stanza 4 metri per 4. Sempre meglio di niente. C'è una sedia, un'apparecchiatura che crea il cibo e la descrizione della casa è finita. E No, dai, ci sarà un letto. la descrizione della casa è finita. Ragazzi, se è uno che ha rubato i soldi alla mafia, comunque, amico mio, devi spenderli meglio. Ho venduto quasi tutto per ripagare i debiti. E la lezione è? La lezione è? Fammela sentire, Non Lieto si chiedere i avvicina. soldi alla mafia. Bravo! Oh, sì. Chiude la porta. Sì, non c'è molto spazio per tutti voi, mi spiace. Quanto gli devi ancora? E in teoria altre 200 manapenny. In pratica loro aumentano gli interessi ogni settimana. Se ne la merda. Abbastanza, sì. Neanche a dare via il... Neanche a dare via il culo ti guadagna così tanto. Non... Se ne sa Diciamo non qualcosa, c'è Lieto che si inferire, gira, tipo. secondo me. Non ho sentito Lieto. Niente, niente. Mi hanno dato un incarico che avrebbe dovuto estinguere i debiti e i cani del regno sono venuti a prendermi. Qual è l'altro incarico? Incarico avevi? Dovevo conservare alcuni loro beni, ma ho scoperto dopo che era uno specchietto per le allodole, un modo per farmi andare nei casini e salvare uno dei loro. Sì, torna. Tra l'altro hanno pure confiscato la cosa che dovevo consegnare, quindi. Che cos'era? È un artefatto. Di che genere? Non ne ho la più pallida idea, non è il genere di cose che conosco. Lo hai visto o sapevi che era solo un artefatto? Sembrava una teiera di ceramica. Mifu guarda Lieto come per dire, ti dice qualcosa? No. Dice niente. Corretto, master. Niente. Ok. Rolliamo. Per favore. Beh, Lieto, vuoi fare delle domande? Sì, Lieto. Nibel, volevi fare delle domande? No? Mi si siede sulla sedia. Comincio a pensare che non abbia le informazioni che mi servono. Perfetto, però... allora stacchiamo la croce. No? Conosci... Tagliamo la corta. Conosci un tizio di nome Delfo? Ne conosco un paio. Qualcosina in Schiliseto. E... sì, frequentava i miei giri, credo. Non lo vedo da anni. Da anni. Sì. Ad Apeira, credo. Pensi che sia ancora qui ad Apeira? No. Cioè, se è tornato di recente, non lo so. Sono almeno 4 anni che non se ne sa più nulla. E qual è il luogo di ritrovo per la famiglia in questa città? Hanno un paio di safe houses e le cambiano a rotazione. L'ultima che mi hanno dato è nel quartiere nord. Vi dà l'indirizzo. Ok. Ma il tizio di cui parla non c'entra niente con questa... cioè, non viene qua da anni. L'ultima volta che ne ho sentito parlare andava... non lo so, verso est. Va bene. Okay. Se per Nibel basta, direi che noi possiamo anche andarcene. Sì, è inutile insistere. Visto che probabilmente me ne dovrò andare... vi interessa comprare una macchina che genera il cibo? No, mi spiace. No. Domus. Mi date una mano a smontarla? Smontarla o smontarla? Smontarla. Staccarla dalla parete o smontarla a pezzi? Smontarla. Lieto punto Rex ha smesso di funzionare. In maniera educata o... Eh sì, sì, mi servono i pezzi integri. Lieto c'ho tipo Fireball che stava tipo nella mano, che stava tipo che scende. Vedi, devi sempre specificare. Posso provare? Sì, anche io immagino. Bonk. Avete degli attrezzi? Altri faccio da solo se mi date gli attrezzi. Ho dei martelli, un martello. Lama, piccone. Non sembra, ma me la cavo con i lavori manuali. Ah, ok, allora... Ho ben 4 di manomettere. Poi ti faccio fare un roll con vantaggio, con Lucky, perché lui ti guida e ti spiega che gli servono dei pezzi specifici. Tra l'altro, per quelli di voi questa sarà una roba molto educativa, perché vedete come cazzo sono fatte le macchine, eh? Che bello. Infatti. Quelle che produce... Vabbè, non sono quelle. Ok. No. La prima parte è togliere il guscio, l'esterno, che non serve a un cazzo, è solo per estetica. Bella madonna. Vabbè, non ho neanche bisogno di tirare... No. Ho tirato un dado solo, quindi... Cioè... Sì, perfetto. Ho fatto 10. Il primo punto è togliere la parte esterna, e quindi si vede lo scheletro, per chiamarlo così, dell'affare. C'è un'apparecchiatura dove vengono inseriti i manapenni, e poi tutta una serie di dischi metallici, quantomeno l'esterno è metallico, l'interno non si capisce, che messo uno sopra l'altro permettono di castare delle spell. Questa è la logica. Sono collegate da un sistema di tubicini e fili vari. E la maggior parte di questa roba è completamente incomprensibile a un profano. Cioè, non è diverso da vedere un rituale magico, vedere questa cosa qua. O un computer per una persona vissuta nel 1200. E... lui ti guida e ti dice quali dischi gli servono e quali parti puoi buttare via. E alla fine recupera 4 di questi dischetti e alcuni di questi filamenti che c'erano dentro. Il resto... commenta, puoi tenerlo o buttarlo, non mi interessa. Fa con un fazzoletto avvolge il tutto e se lo mette nella borsa o comunque in una tasca del mantello. E che te ne fai di queste cose, tra l'altro? E li posso rivendere singolarmente, oppure se riesco a rubare... a prendere in prestito un'apparecchiatura posso costruire dei macchinari di fortuna. Ci sono. Ma guardi? Too much to bear. Troppo da orso. No, è che mi si erano bloccati. Trappola da orso. Too much to So bear. reference. Ah. Hoffman. Grande Jigsaw. E non avete mai visto una macchina aperta? No, io vengo da una famiglia abbiente. Ci sta. Non mi sporco le mani. Io sono mai visto una macchina aperta? Sai che credo proprio di no? Neanche in produzione con le medikit? No, perché tu non hai mai lavorato in fabbrica. È vero. È strano per Ci una pensa. standout, però. Non Ci fare chiedono casino, dici? una volta. No, così, en passant. Io l'ho vista a malapena chiusa. Preferisco il cibo fatto a mano. Volete sapere chi è che l'ha vista aperta? Ora. Verrebbe da dire ora, invece è Adone. Che non se lo Ah, ricorda. sì. No, me lo ricordo, però dicevo, sì. Effettivamente potrei dare una mano, però non sono stato io a smontarla, quindi Esatto, cioè se ti metti, direi di no. se eviti di distruggere questa cosa è meglio. Dai, uffa! Basta, ammazzati. No, Ma era. sparo al tipo adesso. Ci sta tanto. E guardate, grazie per avermi tolto dalla croce e guarito, ma credo che abbandonerò questa città il prima possibile. Quindi temo che questo sia un addio. Tieni gli occhi aperti in giro, se dovessi sentire di nuovo di Adelfo, tiro la mente, se ci becchiamo di nuovo, Puoi farebbe piacere se... lasciarmi un indirizzo dove mandare le lettere? La chiesa di Yellow. Ieros, a nome Nibel. Perfetto. Sì, se scopro qualcosa ti faccio sapere. Metto la mano sulla spalla. Gli lascio un manapenny. Ora devo solo 199 manapenni alla mafia. Un primo passo. Grazie. E addio. E inizia, se ne va, scende le scale senza neanche guardarvi. Proprio accelerando il passo. L'ho già tolto io dalla scheda. Perfetto. Torniamo a casa? Io vorrei farmi un bagno caldo. È Cioè, comoda sì. quella sedia? No, Ma sono io seduto sulla sedia? solo Mif. No, Cioè, è c'è una sola una sedia, sedia. se non ricordo male. Mi fa proprio stravaccata su questa sedia. Vedi che dondola un po' e fa, beh, non ci vuole nemmeno. Direi che è una sedia decente. Ce la portiamo al Posso tempio? con la mente cercare di far cadere la sedia, Bianis? Posso fare un Roll un volt di qualsiasi 10. cosa? Cosa che hai detto? Non l'ho sentito. Usa i suoi poteri telecinetici per Vabbè, tentare di far provo cadere la quattro. sedia. Quanto hai di dialettica? Non mi ricordo. Dialettica più due. Niente, 6 non basta. La sedia fa un pochino avanti, abbastanza a far paura a Mif, ma non abbastanza a farla cadere. Adore, Esatto, non fa vedete questa cosa? chi cambia espressione un attimo e fa chi cazzo è stato e guarda dietro perché magari dietro è quello che fa più queste cose. Ma lì è tipo, oh, c'è un altro terremoto. Genuinamente confuso. Adesso c'è Torniamo anche a casa. la sedia posseduta, fantastico, e la prende e se la vende, cioè tipo, la vuoi ancora ora? Sì. Bene, portatela a te. Ok. Tipo, ma Adore dice, ma no, ora lascia lì la sedia, Ma cosa, tanto a cosa ti serve? la lasciamo Prima. qua, ma scusa. No, è una sedia. Potrebbe Ma è essere una sedia di legno, eh. utile. Può costare anche Infatti. 3 manapenni. Lascia fare. Ora tu non Adesso la dovresti essere un nemico, però. bruciamo. Come? Infatti, la utilizziamo per il fuoco oppure per vedere E vabbè, qualcuno. portate la sedia, però andiamo per Sì, favore, inizio ad avere freddo. certo. Dopo se non Come sapeva tantissimo al su master. che te tesoro stava seduto. Poteva venderla per 199 monete. Nell'altare che fosse una sedia magica guaritrice. Così non solo doveva dei soldi alla mafia, ma anche qualcuno che lo voleva morto. Uno in più, uno in meno. Vabbè. Vanno sempre in caciara. Scendete allegramente le scale ora che avete un nuovo compagno nel party, la sedia, e vi dirigete finalmente verso il tempio. Cazzo, ragazzi, ma così si bagna? No, no, no, serve un telo. Serve un telo. Ora andiamo a Mi tolgo il casa e basta. cappotto. Oh, perfetto. Ho una domanda importantissima però, Vai. Bianish. Devo farla fuori dal game. E quali sarebbe l'equivalente degli ebrei in questa cosa? No. Allora, No, andiamo avanti. ti risponderò nella prossima Seria. sessione. Ok. Perché ho bisogno di fare un ragionamento. Direi Vabbè, c'è una tu. costante nella storia per quanto riguarda tutti gli ebrei, ovvero sono quelli che hanno inventato gli interessi, quindi probabilmente sono in banca. La famiglia Stand. No, vabbè, Infatti. scusa, scusa. Posso dire che Accettiamo Mif israeliana, Ce l'ha, secondo eh sì. me, Magari non poteva. ebrea, ma israeliana senza dubbio. No, no, lei è israeliana, non ebrea. Sì. E Adone tedesco, secondo me, spiega tante Sì, cose. tantissimo. Vabbè, onestamente, chi ad Israele è ebreo? Prima poi. Vai, vai, vai, Parentesi, certo. ragazzi. Io mi sa che una cosa che non ho mai detto, ma la mia prozia cilena, perché quando sono stati in Cile, dico, cioè, la prozia della sorella di Era quello che sta, nazista o vabbè, ebrea? era israeliana. Wow, Eddie. Wow, Wow, Eddie. ci rubano anche gli stereotipi questi E israeliani. lei tipo mi diceva, no, ma io allora ai tempi non ero così informato sulla situazione, però non mi piaceva Israele, cioè non sapevo A benissimo, però vibe. non mi piaceva lei. No, ma Israele ci vorrei un sacco tornare, cose. Poi Tornaci. c'era un sacco di beef perché tipo lei è stata tipo a 18 anni, ha preso l'aereo, è andata a Israele, ha vissuto lì un botto di tempo, è tornata in Cile a 90 anni e sono lì, ma torna tra Israele, cosa vuoi da noi? Ero lì, Che ma cosa deve trovare a poverino. 90 anni in Cile, scusa? Sì, faccio. Gente. Vabbè, la famiglia di che cazzo t'aspetta? No, Flame, dal lato di tuo padre? Ma no, Fra, ma questa no, cioè la mia famiglia cilena con cui però Ah, non quelli ho che t'hanno contatti. ospitato, scusami. Infatti Sì, ero quelli che mi hanno tipo. ospitato, sì, non ho legami di sangue, però Sì, non. sì. Scusami, scusami. Sì. Ma allora, cioè, Sì, però gente. dico, cioè, vai via a 18 anni, ritorni in Cile quando ne hai 90, ma che cazzo è ancora vivo? Scusa, per riconoscerti. Allora, metti che magari le proporzioni non erano quelle, ma ha letteralmente vissuto, cioè ha avuto i figli suo marito, i suoi figli erano in Israele, appunto, e lei era tornata lì per stare con la sua famiglia, il resto della gente era lì, ma torna a Israele. Però era comunque una situazione triste perché era una signora anziana con dei problemi comunque, quindi sono sempre lì, sì, però povera signora. Ed è per questo motivo che io odio gli anziani. Ah, ok, pensavo dicessi gli ebrei e avremmo riso tutti di gusto. Ah, mi E fanno schifo le donne. quanto mi hanno schifo. Bello. Wow. Andiamo avanti. Anche a me, anche a me. Vogliamo transizionare tutti. Dicevamo. State proseguendo verso il tempio di Luvia e siete relativamente normali, tranne la tizia che ha una sedia con sopra un cappotto. L'edicola, davanti alla quale passate sempre, è chiusa. Dopo il Voglio giornale. andare. E per la Vabbè, quarta volta in questo giorno. dal Ligue, tra l'altro. sì. Grande, ho voluto. Adone sta andando fast perché si è rotto il cazzo dell'acqua. Ok, arrivata alla porta della chiesa. Ok, Adone bussa, La poi porta della. apre a Cioè, dire il esatto, vero. sì, esattamente. Ok, sì. E c'è il vescovo che sta pulendo la chiesa alla vecchia maniera, cioè con scopa e pompanno. Cosa sta facendo? Sta scopando! Wow. Sono giorni che fa solo quello, sto povero Cristo. Sono Cioè, prima giorni il che continuate a sangue, adesso i disintegrare. buchi sui muri. Esatto. Sì, ha già stuccato i buchi nel muro. Oh, siete tornati. Sì, ora ha portato una sedia. Perché? Perché, a Era bella! parte che era, Le piaceva. certo, ma soprattutto, chiaramente, E non c'è abbastanza posto da sedersi in questa chiesa. Era di un tizio che è scappato dalla mafia e ce l'ha lasciata. Porta fortuna. Non credo proprio. Così a Dai, era naso. anche posseduta, si è mossa da sola. E pare Vero, abbia Nieto? proprietà curative questo Non ho seme. fatto niente! Adoresti dire dall'altra parte e ridacchia un pochino. Il vescovo passa la mano Io. sopra la sedia e dice: No, non è maledetta. Ah, Sembra che ottimo. costi 199 manopelle o qualcosa del genere. Sono certo che Buon uomo, se lei avrete. può sentire questo genere di cose, una brutta notizia, gli appoggia tipo la mano sulla spalla. Cosa? Ho detto quello che ho detto. Vi chiedo di pazientare ancora presto per la cena. Siete tornati per questo, no? Anche per proteggersi dalla pioggia e fare una doccia, visto che penso che siamo tutti negati, ora di che siamo arrivati alla chiesa. Legato La a far cosa? Scusate. chiesa ha un'apparecchiatura mia privata per la doccia e la avete al piano di sopra. Non è un problema usarla, vero? Nel senso se è sua privata, No, non vorrei cercate di disturbarla. non distruggerla e in genere la pago con i miei di manapenny e non con quelli delle offerte. Beh, se necessario pagheremo noi. No, siete ospiti del dio, quindi Sì, è vita. anche vero Questo che di qualcuno quello. ha cercato di spaccare la chiesa, vero ora? Ho cercato di migliorare la vita di tutti. Grazie Piace comunque, questo. Vescovo. Un buco alla volta, vero ora? Non immaginerà cosa è successo oggi, ma sono Volevo. certo che lo scoprirà non troppo tardi. Volevo proprio chiedervi quali novità portate con voi. Vedo la pacca sulla schiena dietro. Beh, buona fortuna allora, io comincio ad andare. Sì, Biff fa uguale. Tipo, si tira ora con sé. Dai, andiamo a vedere dov'è che possiamo mettere la sedia. Adonis sta già andando a farsi il bagno, Bene, vuole la mattina. rimangono Lieto e il vescovo. Lui si Mio siede. padre, qual è la sua opinione riguardo ad Arva? Non ho idea di cosa tu stia parlando. Benissimo. Allora, oggi abbiamo risolto un puzzle. E ci siamo divertiti abbastanza in realtà nel farlo. Adone un po' meno, ovviamente. Sono un po' di sangue. Vedo. E niente. Sono l'avatar di un dio. Sono l'avatar di Arva. Sarebbe un dio Sì. orientale. No, è un dio antico della vostra città. Ah. Il dio del tempo. Se lo dici tu, deve essere sicuramente vero, non ne ho mai sentito parlare. E come Mentale al grande capo per convincerlo. Sarebbe una Ok. preghiera. Sì. Come funziona diventare un avatar? Abbiamo risolto un puzzle, a quanto pare. È canon, è questa cosa. È Vedi che muore. stata una serata impegnativa. Tutta la polvere. E L'amianto. ed è bastato risolvere un puzzle. Così ha detto il dio. E non ho voluto, cioè, ci siamo proposti tutti per diventare l'avatar e abbiamo Quindi è tirato scelto a la caso. sorte. Sì, è stata la sorte a scegliere. Perdona Non la ho mia. avuto cambiamenti sostanziali ad ora, quindi capisco il suo scetticismo. Esatto. Io, come vi ho detto, a quanto pare credo di aver visto un avatar da giovane. E non ti offendere, ma non me lo ricordi minimamente. Comprensibile, non sono la solita persona che si è svegliata stamattina ancora, quindi capisco lo scetticismo. l'ho detto prima. Siediti, no? Per favore. Io dopo che torno dalla camera, mi tolgo il cappello, la giacca, metto giù la borsa con le mie cose, poi torno giù da Lieto e... Ok. E dal sacerdote. Dammi un altro minuto soltanto. Fai. Facciamo l'ultima cosa. Come tu forse saprai, i vescovi sono in grado di resettare la fede di una persona. In altre parole, posso farti ricominciare il tuo percorso, farti riapprendere tutte le magie che hai appreso, farti cambiare tutte le scelte che hai fatto nel corso della tua classe. Motivo per cui forse serve qualcosa del genere per attivare l'avatar. È possibile. Potremmo anche provare, immagino. È un processo molto faticoso e avrei bisogno di farlo in un giorno in cui non ho avuto i problemi che ho avuto oggi. Allora cercheremo di farlo avere una giornata rilassante domani. Esatto. E lo faremo dopo domani se riusciamo. Cioè, se domani riesco a non morire. Su quello non posso provare nulla. Immaginavo. Per il resto, considerami come un amico. Non ho nessuna intenzione di tradirti solo perché hai scelto una divinità diversa dalla mia. È molto gentile da parte sua. E avendo visto la mia divinità, non posso dire altrettanto. Riarriva Nibel in quel momento. Ciao Nibel, siediti anche tu. Sì, mi avvicino anch'io. Seduti su una panca. Mi ha raccontato, sì. Suppongo che non ci abbia creduto. Faccio molta fatica e mancano i riscontri per molte cose che dice. Ho visto Arva con i miei occhi, posso garantire per lui. Sì, immagino che a questo punto non abbiate motivo di mentirmi o di farmi degli scherzi. Non è neanche l'unico avatar che ho visto, in realtà, nelle ultime giornate. Vai avanti. Abbiamo visto quello precedente di Arva, certo Kronos. Ok. Si ricorda il cuore nella statua? Sì. Quando l'abbiamo tirato fuori, a quanto pare l'abbiamo liberato. C'erano delle storie su una persona bandita. C'era solo l'iniziale al nome C. Storie di 2000 anni fa, riguardo al fatto che alcuni empi veneratori di divinità occulte furono rinchiusi e subirono la damnatio memoriae. Non pensavo che il mio tempio ospitasse una persona del genere. Non poteva... quello che nessuno potesse aspettarsi. Chi ha fatto questa damnatio memoriae? Realisticamente... i miei predecessori. I preti di Yelos? Anticamente Apeira aveva diverse divinità che collaboravano tra di loro, 6 tendenzialmente, e i sacerdoti di queste divinità avevano dei patti che rispettavano di non combattersi fra di loro, ma di eliminare tutti gli dei pericolosi, stranieri. Per cui sì, lui insieme agli altri. Ovviamente vi sto raccontando quelle che fino a pochi giorni fa per me erano delle favole. Comunque ha scelto di fare il prete lei. Beh, è anche un lavoro sicuro, d'altronde hai un sacco di vantaggi, non devi pagare le tasse. Vero, il becchino deve pagare le tasse, se no. Non da Pera dove il becchino è un sacerdote, però in una città normale sì. non credo che ci sia una singola persona in tutta Pera che pensa che queste storie fossero vere. Cioè? Damnazio memoria di dei antichi. Ah, eccetera, sì, ok. Eccetera. A malapena la gente crede agli dei che ci sono rappresentati qua, figurati quelli cancellati. Se... nella mia vita credo di aver incontrato solo pescatori che credessero nelle divinità. Probabilmente è per quello che si vede in mare. Aiuti. Comunque, se avete finito, vi lascio stare. Dovrò metabolizzare queste cose che mi avete detto. Sì, e io sono abbastanza stanco, quindi direi che è il nostro momento di andare a nanna. Moniben. E mi porto. Sì. Beh, ok. Lui riprende a pulire la cosa flemmaticamente. Rifarei una scena velocemente con loro due di sopra. Loro tre, c'è anche ora. Sì, sì. Vi rifate le scale. In realtà all'andata siete voi quattro. Nibel, Ora, Adone e Mif. E la sedia. E Nibel posa le sue cose e poi riscende le scale. Rimanete voi tre. Più la sedia. Quindi ora, dove la mettiamo la sedia? E non lo so, nella mia stanza? Cioè nella stanza dove dormo io? Beh sì, dai. Così se ti vengo a trovare almeno una sedia su cui sedermi. La caccia. Sì. Esatto, però, esatto, sì, sì, sì. Nell'aria. Infatti vi fa tipo un occhialino. Ad Adone? No, Adone. Alla voce. Ok. Alla sedia. Il mio mantello è fradicio, dovrei asciugarlo. Ti direi di chiedere a Lieto, ma non so se mi fiderei a far asciugare una cosa a lui. C'è un posto per accendere un fuocherello? La mano e di nuovo. Bene, ok, cazzo che volete per oggi. Magari giù? Credo ci sia una macchina per la temperatura. Potrei attivarla, comunque è inverno ormai, fa freddo. Sì. È vero, c'è Pesino. Sì, non si offenderà il vescovo. E credo di averla vista in corridoio. E esce senza neanche dirvi niente. Rimanete voi due nella stanza. Più la sedia. Domande, siamo nella sua stanza, giusto? Sì. Nella stanza di Oro. Hai uno spettro in camera. Bello come il timing sia stato uguale. Mia madre è entrata in casa. Cos'è che... Siete voi due e la sedia nella stanza di Ora. Cioè, la stanza di Ora dove ci dormivano anche Lieto e Nibel. Sì. E allora dice... credo che vado a raccogliere le mie cose per poi andare a farmi la doccia. Così poi potrete fare... Ma quindi adesso voi. C'è un buco che divide le nostre, cioè, le nostre stanze, c'è un buco di mezzo. Sì, tecnicamente. Beh, non enorme, però un buchetto. Cioè, sì, però puoi non fa vedere dall'altra. Ah, ma è evidente da parte a parte. Sì. Niente, Mif ti fa. Dobbiamo. Vuoi fare qualcosa stasera? Stanotte? Dormire sicuramente. Se vuoi possiamo fare il tuo solito esperimento. La sedia annuisce. Esatto. La sedia è diventata il water cooler dentro. No, comunque sì, sì, esatto. Adesso parte una fight. Vedi che la sedia si è illustrata agli occhi, però non conoscendo nessuna backstory di questo personaggio, tipo che esprimi, di cosa si parla? Prego, scusami. Mif, vedi che fa un sorriso genuino e fa, va bene, stanotte vengo e farò i miei bagaggi. Ho bisogno di riposare anche io. Va bene, vado nell'altra stanza, poi a un certo punto vedi che, non so se vedi il buco, però ad un guardo dal buco e trovo un mobiletto, qualcosa, e copro il buco. Fatto, check. Mif invece cerca di vedere i libri che ha preso Ora. L'avevi già fatto, se non sbaglio. Sono totalmente velocemente, non nel dettaglio. Però a un osservatore esterno sono la cosa più boring del mondo. Sono veramente libri di preghiera. Sono collezioni di canti, omelie, cose del genere. Mi sto venendo molto a stomaco. Ah, no. Magari mi chiederà Dora. Magari le cose sono più divertenti. Niente, penso che lasci il tempo ad Adone. Non so alla fine dov'è che va la... cioè... Infatti io raccolgo le mie cose e vado a curiosare dove aveva Sì, detto di dopo ci andare. sono tre porte, quindi prima o poi la trovi, capito? E in corridoio c'è Ora, che è davanti a questa macchina, che è fondamentalmente un calorifero, e ci ha messo sopra il mantello, e ce l'hai messa così, che sta aspettando, e ha una fascia sul seno, la gonna, cioè dei pantaloni, pantagonna, capito? Quelli da nonna, capito? Che Sì. sono lunghe, e basta. Ora, forse attenta a non prendere freddo, ma nemmeno a scottarti. No, sono vicino alla macchina, fa caldo. Sì, ma attenta che non prenda fuoco, non lo so, io non ho mai fatto il bucato. E non credo si faccia così il bucato. Ma sì, no, no, ci sto facendo caso. Sto qua a guardare finché non è asciutta. Ok, allora dopo, appena avrò finito, penso che anche Miffa tipo vada in corridoio e faccia come Ora, nel senso perché avrà i vestiti da asciugare, quindi... Dammi, li metto. Sì, si toglie la camicia e fa, boh, tieni. Arriva anche lieto in realtà. Vabbè. Con la frase tipo: non mi sembrava il caso di darmi fuoco. E sembra tipo triste di questa cosa. Devo mettere anche i tuoi panni sopra questo. È già lieto, è già tipo Ce l'hai aperto già, un mondo ok. con i panni in mano, li sta già sistemando. Intanto Don è andato a farsi la doccia. È un Anzi, il po' come bagno. fare il barbecue. Devi aspettare che sia cotto. Intanto Hai guardo mai i due visto panni. qualcuno di... No, è vero, in questo non c'è ancora nessuno psichiatra in questo mondo. Nevermind, fai conto che non abbia detto niente. C'è di che. Credo che andrò a letto presto stasera, sono molto stanca. Ora, magari nei prossimi giorni ci leggiamo i canti insieme. Ah, la maggior parte era merda stampata. E la minor parte invece? E c'era un libricino che avevo messo sopra tutti gli altri, era l'unico dove avevo trovato la versione che funzionava. Ho fatto un'orecchia al libro per ritrovarla. Ok, ci darò un'occhiata allora. Se non ti dispiace. Te fai pure. Però ti dico, non era niente di interessante. Letteralmente le parole erano l'ennesima preghiera. Solo con metodo le ho lette tutte finché non ho trovata una che funzionasse. Quanta pazienza da te, non me l'aspettavo. Piace fare le cose E con metodo. niente. Già. Serve anche in realtà con Adone, con i suoi sogni. È interessante. Dici che avrà ancora gli incubi ora che l'hanno aggiustato? È una cosa che avrà dentro di sé, quindi ti direi di sì. Però Puoi sostituire i vorrei provare. suoi sonniferi con qualcosa, con un placebo per vedere cosa succede. Miff, che prima stava guardando la stufa, si gira verso Ora e fa: Ora, se non fossi già occupata, ti avrei chiesto di sposarmi. Ci penso io, è l'ultima magia che ho per oggi. Fantastica. Guarda che non si brucino i vestiti e va dove, nella stanza di Adone. Ok. Cos'è andata a fare? Niente. Dai, letteralmente niente. No. Niente. Letteralmente niente. Quite literally. Ma dai. Produrre del nulla. E che stavo scrivendo una cosa per te, Piani. Meglio, meglio. Scrivila. Vabbè. È la migliore cosa che potevi fare, grande. Mi confermi che è una vasca quella in cui si lava? Ma più una bacinella. E allora niente. Più una... E l'affare che fa cadere l'acqua è molto simile ai... È presente gli affari della doccia larghi, con tutti i buchi. E non so se hanno un nome specifico. I soffioni. Sì, gli soffioni quelli molto larghi, piatti. Sì. Io vado da Miff con la mia pipa. Ci sto fumando. E dico... Hai bisogno di un soggetto per stasera. Adune si è prestato gentilmente, ma se volete possiamo giocare un po' e fare una doppia sessione. Dovrei farcela. Se non è un problema. Magari si scopre qualcosa di interessante. Vedete Ora uscire dalla stanza che non è quella dove dorme Ora, fa a Miff e si rimette a guardare i suoi vestiti. Miff le fa l'occhialino. Cos'è stato quello? Sono perso qualcosa. Ah, niente, appunto. Il mio è pronto e lo reindossa. Indossi solo quello ora? Sono una sacerdotessa, sì. Di questo periodo non c'hai freddo, però. A casa avevo anche la versione invernale con la pelliccia. Non me la sono portata dietro perché non pensavo di stare qua così tanto. Sarà allora da prendere qualche vestito in più, giusto per non gelare. Beh, non è una cattiva idea. Disse ancora in camicia il 16 ottobre. Lieto continua a essere vestito con i vestiti di pelle. La sua pelle! E... Niente, ora si congeda dicendo... Ci vediamo per la cena e si butta in camera sua, proprio si butta a letto. Io penso che Miff prenda la sua camicia, il suo foulard, si risistemi un attimo e fa... Tu tutto a posto? Voi tutto a posto? Sì, ho saputo che... Sono accordato con il prete per essere resettato, riavviato nella mia fede. Pare potrebbe aiutarmi con il mio percorso di avatar. Ah, me lo penso. E niente, se lo teniamo buono, cioè se non ammazziamo il vescovo slash il prete, scusi. È completo un vescovo? Vescovo. Cioè, ha dato un titolo, vetro, vescovo, ok, va bene. E se non gli distruggiamo la chiesa e non lo ammazziamo nei prossimi giorni, dovrebbe aiutarmi. Vediamo di non distruggere la chiesa e di non ammazzarlo, mi sembra il minimo con tutto quello che sta facendo. Nel caso leghiamo Ora. Sì. Va bene. Ho l'impressione che le piacerà. Questo non lo volevo. Gli tolse un sopracciglio. È tipo... Ci sto. Cerchiamo di evitare di fare troppi danni alla proprietà del sacerdote. Certo. Non sarebbe il caso. Beh, quasi quasi gli chiederò qualcosa su Yelos. Magari riesce ad avverare quella cosa che ha scritto Kronos sulla lettera. Deve essere interessante. Non hai la conoscenza di Arva come Dio, dubito che sappia molto di più, però libera di chiedere. Comunque un uomo di fede. Non tanto, sembrerebbe. Detta da lui, io... Basciato non porta pena, Solo disgrazie. Voi cosa volete fare? Io do una nanna dopo questa, direi. Sì, ma sì. Se dovete fare il bagno, posso andare per ultimo. Ah, sì, ci metto un po'. Fretta. Ho i capelli che sono da sistemare. Non ho così tanto sonno al momento, quindi posso prenderci il tempo che volete. Ottimo. Io mi laverò domani e si lancia letteralmente in branda. Sono le 6 di sera e non avete cenato, eh. Dietro gli effetti a cazzo, ma ora si è buttata a letto dicendo mi chiamate per cena e si è fidata, quindi io vado giù. I miei compagni non sarà un bastardo se vogliono mangiare. Vero. E dicevi Os? Vado giù dove ci sono le navate della chiesa. Sì. Metto in un punto dove ci sono le panchine che è poco illuminato, dove magari ci sono delle candele. Sì. Sono accese bene, se non sono accese le accendo io e rimango lì a fumare rilassato sulla panchina. Ti godi la scena del vescovo che sta pulendo. Sì. Vescovo magari dopo che ho finito di fumare magari vado pure ad aiutarlo, però per ora mi godo un attimo di tranquillità. Perfetto. Secondo me Adone ha finito la doccia. Va bene, mi gli dà il cambio. Ok, è tutto bello, fresco, pulito. Hai 10 dita di carne. Bello? O altri pezzi di metallo? Direi proprio di no, cioè sono a posto. Invisibili. Invisibili, perfetto. Le braccia ti si muovono molto bene. Bene. Per ora. Però. E niente, appunto Don esce dal bagno, lo vedi tranquillo, ti dice... Prego. Viene da te e ti viene a chiamare, insomma. Ed è nudo? No, è vestito. più comodo, sicuramente, un vestiario un po' più a metà fra il pigiama, cioè fra roba da notte e roba da uscire, ma... Io ho paura, Bianchi, cosa stai tirando fuori? se tiri fuori la camicia d'annunzio... Ah, no. Lo faremo, va bene, sarà fatto. E vabbè, hai i capelli sciolti, se proprio ci tieni, c'è l'unico dettaglio. Cioè, hai i capelli sciolti, li vedi un po' più arricciati del solito, perché adesso se li puliti, giustamente. Mi sa che idee ti fa. Dovresti tenerli più spesso sciolti. Sospiri, dice... Lo diceva anche Silas. Ovviamente lo diceva tuo marito. E tipo entra nel bagno, nella... se ne va praticamente. Posso fare che scivoli per terra sul bagnato? I poteri. Sono un dio. Il dio delle leggerissime disturbe. The minor inconvenience. The minor inconvenience, God. Cazzo, c'ho una cosa da scrivere. Vedi. Io torno in camera mia. Sì. C'è qualcuno? Cioè, c'è Nora? In camera tua, che è vuota perché ci dormite solo tu e Mif, c'è una candela accesa in prossimità della finestra. Che ora dorme con me adulto? Dormiva lì dall'inizio. Infatti. Io vabbè, vado a vedere la candela, la lascio lì, poi vado dagli altri e dico, avete acceso voi la candela in camera mia? Gli altri sono, immagino tu stia dicendo, cioè non penso tu sia entrato nel bagno per vedere Mif nuda. No, chiaramente. Ok, no, era per capire. Quindi sei entrato nella stanza con Lieto che dorme e Ora che dorme. Ah, ok, stanno dormendo. E Nivole giù. Sono ancora addormentato, eh. Cioè, sono passati 6 secondi, quindi almeno che non fosse più... No, è passato il tempo che ci ha messo a Duna a fare la doccia, eh. Cioè... Allora ci sta, magari, che si è già dormi veglia. No? Sì, cioè, come vuoi. Sì. No, vabbè, allora se stanno dormendo, no, non li disturbo. Vabbè, allora... accetto il mio destino, torno in camera mia e mi sa che mi metto a letto a leggere un po'. Cioè, non mi metto sotto le coperte, però mi metto un po' in relax. Insomma, okay, penso perfetto. Un po' a quello che è successo. Passa qualche minuto, Mif finisce la doccia. Penso che si rivesta e vada giù. Di sotto? Cioè non saluti nemmeno Adone, si fotta Adone. Beh, Adone ha lasciato la porta aperta, quindi se la vede passare si alza. Okay. Cioè, facendo miffa, insomma, anche perché se gli altri dormono. Adone arriva e fa... la candela l'hai accesa tu prima? Miff ti fa un attimo, cioè... oddio, corruga le sopracciglia e ti fa... Ah, sì. Sì, sì, era per avere un po' di calore in quella stanza. Ah, d'accordo, nessun problema. Cioè, l'ho apprezzato, mi piacciono le candele. No, oh, bene. Sono contenta. E senti, io vado giù dal prete. Esatto. Prepariamo la cena. Ok. E... prepari la cena con la macchina. Sì. Ok, no, è perché mancava un po' tutto per fare la cena, sennò. E... perfetto. Quindi io la farei molto nel chill, cioè prepari la cena, cioè se vuoi interagire col Nibel o col Vescovo poi. Sì, sì, tipo Miff, visto che Nibel sarà lontano, fa tono sostenuto. Nibel, cosa vuoi da mangiare? Sarebbe comunque una chiesa questa. Non ricordo l'ultima volta che ho mangiato della carne. E carne sia. E allora, boh, non c'è uno spezzatino, tipo il goulash, dai. Oh. Tenti di usare le tue avanzate tecniche di prompting per le macchine genera cibo per creare un goulash accettabile. Esatto. Hai ancora le terrine che aveva generato lieto. E allora le terrine. Erano quelle per mangiare i cereali con latte, sì. Però... vabbè. Le bestie a quanto pare le usano anche per delle altre. E... e bon, quando è pronto dimmi te come vuoi chiamare gli altri, cosa vuoi fare? Beh, insomma, chiama Os, chiama il Vescovo chiama e... Nibel, credo. Sì. Sì. Dimmi te. Ci sono io in Fitness. Chiama Nibel e niente, si mette da parte la sua ciotolina, poi va su a svegliare gli altri. Tu è l'unica non avvelenata, se ho capito bene. Esatto. Ok, gli altri, come ti dicevo, due dormono e il terzo legge. No, ma io ero sceso con... Adone è sceso. Con... ah, scusami. My bad. Vabbè, gli altri due dormono. Sì, sì, sì, scusa. Immagino che la porta sia aperta, quindi... Miff si avvicina piano piano ad ora, le mette una mano sulla spalla e la chiama, sussurrando. È pronto. Ah, arrivo. Fai presto che si fredda. Va da lieto e con lieto non è così gentile, gli dà una scossa forte e fa, è pronto il cibo, scende. Che cazzo? Sì, arrivo. Si gira dall'altro lato e capisci che non verrà in realtà. Mi fa che fa spallucce, fa più goulash per me. Ora viene stile zombie. Propinquate con due panche messe una davanti all'altro per mangiare tutti intorno. Vi tenete con una mano la terrina e con l'altra tirate su. Si mangia con le mani. Wow. Sì, non ci sono scusate. Scusami, Leto non aveva creato anche i cucchiai. Un cucchiaio? O due forse che gli hanno stati chiesti, però sì, non di più. Sì, il numero di cucchiai che avevate chiesto l'altra volta. E allora mi sa che erano in tre. E allora bastano, avanzano. Uso due chiodi come bacchette. Vabbè, il Vescovo mangia con le mani, cioè si è abituato lui a mangiare. Quindi a lui non servono. Ora mangia con la faccia nel piatto perché sta dormendo. Tipo i cani. Sì, sì. Ma però un chiodo lo uso tipo per ficcarci la carne e me lo mangio. Tutta salute. Sì, sì, la figura. gli altri tre che rimangono mangiano, cioè gli altri due che rimangono mangiano come persone usando le posate. Esatto. Vedete che mi fa vorace, però, cioè finisce la prima, il primo piatto velocemente, si prende quello di lieto e se lo mangia tutto, anche quello proprio scorpacciato. Io prendi perché sta mangiando, raggiunge la sua fiaschetta e tipo è tristissimo perché è vuota. <Non c'è niente. ride> la ritira e ritorna a mangiare. Al che forse dai, Biff lo nota e si gira verso il vescovo e fa: vescovo, mi scusi, ma con gli alcolici come è messo? Non sono tentazioni che da sacerdote tento di evitare. Tentare non significa che lo fa a qualche bottiglia. Non credo di avere nulla da queste, cioè in questa chiesa. C'è un negozio di liquori qui vicino, se vi interessa. Miff guarda Nibel, come per dire, ci facciamo un salto? Sì, volentieri. Grazie. Ok. La dividiamo in due, sta scena. Voi due andate... Giusto? Adone non va a comprare i liquori? No, chiaramente no. È già uscito, cioè lui si è già fatto la doccia e lui è pronto a dormire. Ora, appena finito di mangiare, risale le scale e si rimette a letto. No. E quindi la dividiamo in due, con loro due che vanno a prendere i liquori, e la facciamo adesso, e poi ti farò vedere le stelle. Ok. Ok. Sta ancora piovendo, pioggia battente, ed è notte, quindi è proprio buio in giro. Il vescovo vi ha detto di preciso dove si trova il negozio e contro ogni vostra aspettativa, visto il tempo di merda, lo trovate aperto. È una locanda che dubbla, come si dice, fa sia quello che vendere proprio le bottiglie alla gente che se la porta a casa. È un enoteca, tipo. Sì, esatto. E quindi a quest'ora, in questa fase del giorno con il diluvio fuori, è piena zeppa di gente che è lì per la locanda, non per acquistare. Il bancone, infatti, dove acquistare le cose è vuoto, perché tutto il personale è occupato a servire i tavoli. Vi do delle informazioni in più. Vedete che c'è un tavolo dove chiaramente ci sono seduti 4 soldati. Cioè, hanno la stessa divisa dei soldati che avete visto oggi pomeriggio. E gli altri tavoli invece sono quasi tutta gente normale, non hanno nessuna caratteristica saliente, sono avventori di un bar genericissimi. Qualche vecchio, qualche ragazzo. Io negli ultimi anni l'ho girato un bordello di locande, secondo te qua ci sono stato? Sì, può essere, non è una delle tue preferite. È per solo me, diciamo... Girare un sacco di locande non vuol dire che le conosco, cioè... Sì. Che è stata una volta sola e basta. No, esatto, intendo dire, non è delle quelle che hai visitato di più, perché è in un quartiere che normalmente non bazzicavi. Sì. Però sì, cioè non credo tu conosca il proprietario, non credo tu conosca... Sì, certo. E comunque... Mi tengo un po' alla larga dai soldati... Non scambio lo sguardo, cioè gli do un'occhiata, vedo che sono lì e poi proseguo verso il bancone. Perfetto, mi fu uguale? Sì, segue Nibel. Ok, ci mette un paio di minuti, anche tre, ad arrivare al bancone uno dei dipendenti, diciamo. Dico dipendenti perché è molto giovane, quindi non sembra il proprietario. E vi dice subito: non ho tavoli al momento, quindi o ripassate più tardi oppure... Posso darvi qualcosa da portare via? Vorremmo prendere qualcosa da portare via, in realtà. Cosa vi do? Una bottiglia di quello più forte che hai. Poi mi giro, guardo Mif. Guardo all'orizzonte verso gli altri. E anche qualcosa di un pochino più leggero. Perfetto, faccio io? Sì, mi fido. Tira fuori bottiglia di vetro, sicuramente di vetro, che ha inciso una specie di rettile, di serpente. E dice, questo è veramente forte. E qua ho un vino della casa, generico, costa anche poco. Sono 9 per tutto. Ok, tiro fuori le cose generiche o 9 manapenne? 9 manapenne, cioè se vuoi pagare con le monete le accetta. Ok, perché effettivamente noi abbiamo tipo le cose di staff. Sì, sì, puoi pagare con quelle. Io ho ancora 7 di staff, sì. Allora valgono 1 manapenne l'uno? Sì, sì. Allora io ne aggiungo 2. Ok. Ok, quindi 2 da Mif e 7 da Nibel. Yes, lo tengo a 0, insomma ne troviamo ancora. Esatto. E vi raccomanda di non far cadere la bottiglia di soffio di drago. Ok, non credo che ci saranno problemi. Buona serata. La ringrazio. Salve. Questa cosa è durata più di così. Cioè, aspettare, è dovuto andarla a prendere. Sì, certo. Ok. E ora passo dall'altro lato per un attimo, prima di farvi tornare. Ehi, Adone. Mi dica. Quanto sei pronto da 1 a 100? 0, non ho idea di cosa stai per fare. Ho una mezza idea, ma Dio mio. Benissimo. 20 secondi, cioè proprio un attimo dopo che loro escono, senti bussare alla porta della chiesa. Il vescovo è salito per andare in bagno, ti ha salutato, e ora è andato a dormire. Quindi di sotto ci sei solo tu. Ok, e a questo punto mi alzo e vado ad aprire. Mi cerco di coprire un po' il volto e il viso comunque, perché insomma non dovrei farmi riconoscere, ma busso, cioè vado alla porta e dico, prego! La chiesa è aperta, intanto apro. Dall'altra parte c'è una ragazzina, circa 1,70 m, 1,65 m, 1,70 m, e ha preso la pioggia, quindi ha i capelli fradici, e nonostante abbia un cappuccio nero sopra, però è comunque bagnata. E noti che le sue ciocche sono tutte disordinate, scompigliate e con molti capelli bianchi, nonostante dal volto abbia 19 anni, 20 anni al massimo. Damn, ok. E l'altra cosa che noti è che ha le labbra tutte screpolate. Ok. Ciao, sto cercando un ragazzo. Sì, prego, puoi entrare, ma un ragazzo della tua età? Più o meno, sì. Non abbiamo trovato nessuno, ma prego, entra pure, copriti almeno un po' della voce. Mi ha detto che alloggia qua. Come si chiama? Lieto. Ah, certo, giusto. E scusami, Master Lieto è su o era uscito con loro? È a dormire, sopra. È a dormire. E Adone dice... posso provare ad andare a chiamarlo? Ti dispiacerebbe aspettare qua? No. Ok. E intanto le do un attimo un'occhiata. Percepisco magia da provenire da lei. Cioè... Mentre tu mi rolli un di 10, lei ti chiede, tu saresti? Un di 5. Mi rolli arcano. Ok, non ho aperto la scheda. Hai 6, hai fatto 11, ha un botto di magia sta persona. Perfetto. E io le sorrido e dico, un suo amico, stiamo viaggiando assieme, e non credo mi abbia mai parlato di te, saresti? Mi chiamo Ira. Ah, Ira, non mi pare ne abbia parlato Lieto. Cioè, chiedo a te, Master, cioè, non mi... No. Ok. Scusami, Ira, onestamente non mi ricordo proprio che abbia parlato di te. Vi siete dati appuntamento? Sì, dobbiamo vederci stasera. Ah, ok, capisco. Hai notato che finora lei non ha mai sbattuto gli occhi. Ed è... E non ha mai interrotto la line of sight se non per guardare effettivamente cose nella chiesa. Ok. È e... un filo unsettling. Infatti. Dice... Ascolta, credo che comunque Lieto dovrebbe scendere fra poco. Ti dispiace se rimaniamo qua un attimo ad aspettarlo? Non c'è problema. Ok, allora io le faccio segno di sedersi nella prima panca disponibile e mi metto lì con lei ad aspettare. Principalmente sto aspettando che tornino gli altri perché non voglio Prendi portarla tempo. Su le... Esatto. Quando si siede, guarda, cioè le cade l'occhio sull'apparecchiatura, il medikit. Certo. E dice, non sono mai entrata in questa chiesa, immagino siano ad uso gratuito i medikit, giusto? Sì, ne hai bisogno? Sì. Beh, sì certo, prego. Mi alzo e l'accompagno lì. E nel mentre le chiedo, vuoi darmi per caso la tua giacca? Sì, puoi tenermi questo sacchetto un secondo? D'accordo, lo prendo in mano. Cosa mi sembra? Il sacchetto è vuoto. E ah. Nella frazione di secondo che ci metti a guardare cosa c'è dentro il sacchetto, lei si sta cavando un occhio. Che ca... E io la fermo, ovviamente. Vado subito e faccio per fermarle. Dico, cosa diamine stai facendo? Per usare il medikit devi essere danneggiato. E perché vuoi usare il medic così tanto? Non credo serva toglierti un occhio. Non ne ho più. Come prego? Ho finito gli occhi. La guardo. Cioè, lei ce li ha. Non dovrei ridere. Lei è serissima. Per... No, ma lei... In che senso hai finito gli occhi? Nella mia scorta. Io abbasso lo sguardo verso il sacchettino. È vuoto. E li ha finiti, effettivamente. Sì. Al dormitorio non mi è più concesso usare il medikit. Perché ti serve un sacco di occhi, Ira? No, no, me ne basta uno, due. Beh, comunque, per quale motivo ti serve? Sono una ricercatrice. Di? Necromanzia. Ovviamente. Scusami per la domanda banale. D'accordo, fai pure. Cioè, adoro adesso sapere che è una necromante, si è fatto... Sto facendo molte meno domande. Noti che lei ha le... cioè, ci fai caso perché si sta infilando le dita nell'occhio. Ha le unghie tutte rovinate e sta cercando di scrappare via l'occhio. Ok? Io... Con le unghie, proprio di grattarlo via. Ascolta, Ira, non puoi fare qualche altra cosa, un altro metodo per stavolta? Tipo? Ti serve per forza toglierti l'occhio in questo momento? Non so quando posso rifarlo, non mi capita spesso di andare in chiesa. Chi va in chiesa ormai? Sì, questo hai ragione, ma magari attendi che arrivi Lieto, lui ti potrà darti una mano per toglierlo in maniera un po' più efficace? Ha senso. Mi ridai il sacchetto? Sì, cioè, certo, tieni. E le ridò il sacchetto. Come hai detto che ti chiami? Mi chiamo Adone. E tu veneri Yelos? No, tu sì. No. Però sei tu che alloggi alla chiesa di Yelos. Beh, come anche Lieto alloggia in questa chiesa, eppure nemmeno lui lo venera, Yelos. È solo un caso, il vescovo è molto gentile. Ho capito. Ecco, e beh, mi dispiace farti attendere, ma sono sicuro che non ci metterà tanto Lieto a tornare giù. Non è un problema. E va a sedersi dove le avevi detto di sedersi. Io intanto a questo punto non so se mi ero portato dietro un libro o qualcosa da leggere, però vado a riprendere il libro, qualsiasi cosa avessi, e nel mente cerco di studiarla un po' sta tipo, perché non mi sta piacendo. Rollami un di 10. Allora. Io ragazzi, cioè 5. Io ogni volta Adone sceglie un numero per quella sessione e fa solo quel numero. Non sto scherzando, cioè. Allora. Finché non è uno. Sì, infatti. No, le altre volte sceglieva l'uno. Vedi, è andata meglio. Tra qualche sessione avrai la sessione dei 10. Speriamo. Allora, noti che non ci avevi fatto caso. Che i vestiti non sono solo bagnati per la pioggia, sono proprio rovinati, hanno i bordi tutti sfilacciati. In genere è proprio poco curata, cioè a parte le labbra screpolate, ha delle cicatrici sulle labbra, che è strano perché una persona non ha le cicatrici in questo mondo, le unghie tutte rovinate, e in questo momento esatto lei sta guardando fissa, unblinking, la statua di Yelos. Immobile. Okay. Cioè, a malapena respira. E non ha nessun altro tratto strano. Noti che effettivamente c'ha la spilla della Zenith Auster. Okay. E la porta più o meno dove la porta Lieto, però è molto piccola. Cioè, molto più piccola della sua, quindi ci si fa meno caso. E avevi altre cose da tenere in considerazione. Certo. Il sacchetto è tenuto in una borsa nera che porta a tracolla e non riesci a carpire altre informazioni dentro, cioè da quello che puoi vedere. Io torno a sedermi di fianco a lei e dico: ti interessa Yelos? Non particolarmente, mi interessa più Lieto. Ah, capisco. Siete compagni di corso? Non proprio. E vi siete conosciuti così per caso? Oggi. Ecco, questa cosa ad Adone non torna per... Cazzo. E oggi quando esattamente? In università. No, scusa Bianic, ma... Lei è sempre stato con noi. No, scusate, adesso mi perdo io. Mi sono perso io. Ci sta che Adore non se lo ricordi, eh? Cioè, è normale. No. Vabbè. Strada. Siamo stati tutto il tempo assieme, non mi ricordo di sta tipa. Ci siamo al momento in cui tornano Miff e Nibel o no? Ma sì, dai. Ok, come volete, cioè come rientrate nella chiesa? No, con la bottiglia aperta. Esatto, vabbè. Io ho i tis straight. Se l'hai già assaggiata, la roba pesante è imbevibile. Io non me la stavo bevendo, io la stavo mettendo nella fiaschetta. Ok, se l'hai assaggiata è una cosa non sembra fatta per gli esseri umani. Cioè... Anche per gli standard di Nibel. Forse Nibel la regge, ma capisce che un essere umano normale non dovrebbe essere in grado di avvicinarsi a questa cosa. Per quello che l'ho preso un altro. E ti viene il dubbio che se accendi una fiamma vicino a questa cosa morite tutti. Che perché questo è alcol puro, cioè è benzina. Ok, ti dà questo feeling. E ha un sapore speziato, cioè nel senso... Sembra che non ci sia solo l'alcol, ok? C'è qualcos'altro in mezzo, tipo delle spezie, come si faceva il vino nell'antica Roma, più che in Grecia. La finisco di mettere nella cosa, l'assaggio, chiudo tutto, dico, questa è meglio che la tengo io. Mi fa, ma no, dai, fammene assaggiare un goccio. Avevo il tappo, io metto sotto il naso, tipo... Ah, si riaccende il ricordo preciso di quella volta che il grifone ha dato fuoco al villaggio. Paro, uguale. Certo. Ti fa un contraccolpo talmente forte che fa un backflip. Esatto, più o meno. Cioè, mi proprio incassa la testa, no? E fa, ok, no, non ne voglio un goccio. titolo. Penso che andrò di questo qui, stappato bottiglia, no? Quello è abbastanza leggero. Per sosseggiare dovrebbe andare bene per tutti. Apro la bottiglia di quello a mani nude. E niente, siete davanti alla porta. Sì. Chi entra, chi apre? Penso che mi apra. La ragazza ad Adone. Mm-hmm. Avevo capito fosse di sopra. E sì, infatti è di sopra, loro sono altre persone. Mi giro e faccio un cenno a... Aspetta, io c'ho mana, Master. C'è un cazzo di mana, Doc. C'è niente, porca troia. C'hai tipo uno o due di mana. No, non è abbastanza per castare... Hai uno di mana e tre di fatica. Se vai a zero di fatica, ci vediamo domattina. E Evitol costa uno, vai a zero di mana se lo tiri ora. Ok, posso tirarlo ora? Non mi si nota quando lo tiro, vero? No. Ok, allora casto Every Talk e parlo nella mente a Mif mentre la saluto con la mano e dico questa ragazza è strana, chiede di lieto. Mif se la ricorda questa qui, perché io Sara sì, ma non sono Mif. Vuoi fare un roll? Ma a sto punto sì. Vai. Scegli il fatto. Ma io, ma quanto cazzo l'hai incontrata? Purtroppo te la ricordi. E fa... Mif ti fa... Ah sì, si erano avvicinati all'università vicino all'estate. No, però io te l'ho detto in testa, capo. Sì. Ti sta rispondendo. E tu mi rispondi... Ah, in testa sempre, ok, giusto. Usavo ad alta voce, scusa. Può farlo. E non credo, infatti per questo che ero un po'... Non puoi rispondermi. Cioè, può... Non lo so. No, scusami. Se Mif può parlare in un modo che Adone riesce a capire, ma la ragazza no, sì, altrimenti no. Non può parlare nella propria testa, perché... No, devi o... cioè, tipo, lingua dei segni andrebbe bene, ma vuol dire che Mif sa la lingua dei segni. Puoi parlare in un'altra lingua a tua scelta che conosci e devi indovinare una lingua che la ragazza non conosce. No, vabbè. Allora Mif, cioè, saluta e fa... Ah, ciao, tu eri la ragazza che era vicino a lieto questo pomeriggio, all'università, giusto? Si gira il più possibile senza alzarsi dalla panca e dice... Sì, non mi ricordo di te. Ah no, non ci siamo presentate né viste, ero lì vicino. Piacere, Mif. E guarda intensamente Adone, tipo... Io sono Ira. Ok. Aspettate qualcuno? Adone dice, sì, vado a vedere se è lieto, ci degna della sua presenza. E torno subito. E allora Adone va a chiamare Lieto. Lei si è rimessa in posizione e sta fissando la statua di Yelos. Vuoi un goccio di vino? No, grazie. Ok. Vado su di fretta. L'ho circumnavigata osservandola. Non proferisco parola, non saluto, non mi presento neanche. Perfetto. Al piano di sopra, Adone, prima di arrivare da Lieto, ti imbatti nel vescovo. Ok. Che stava uscendo dal bagno, ha notato che l'apparecchiatura per scaldare la chiesa è accesa e la sta spegnendo. Non smadonna, però è tipo, ma chi è di loro che ha acceso l'apparecchiatura? Non è ancora così freddo. E a questo punto... Arriva, dice, ah, vescovo, è arrivata una ragazza per Lieto, l'ho fatto un attimo accomodare. Questa chiesa non è un bordello? No, non in quel senso, sono compagni di studi, credo che dovessero incontrarsi per qualche motivo, non per quello che pensa lei. Me lo auguro. No, siamo rispettosi. Sì. Avete già danneggiato la chiesa più volte. Allora, quella è stata ora e io non mi associo su questo fronte con lei. Però, sul fatto che sono rotolato giù dal soffitto, sì, quello mi dispiace. La stanza con Lieto contiene Lieto ed Ora, entrambi stanno dormendo. Vado, apro lentamente la porta, mi avvicino a Lieto e gli muovo una spalla e dico: Lieto, svegliati! Lieto non si sveglia. Posso usare Every Talk per parlargli nella In testa realtà e sì, urlare puoi. Sì, puoi fortissimo? Ok, farlo. gli entro nella testa e dico: Lieto, svegliati! Stai dormendo. Il tuo sogno è che la voce di Adone rimbalza su tutte le pareti del luogo in cui ti trovi, Lieto in modo veramente fastidioso. tipo si gira dall'altro lato, cioè si gira da uno dei due lati, che non è importante quale sia. E tipo: no, no, anche adesso no, anche nel sogno questo no, però Oh, Madonna, basta. decidio, gli pizzico la guancia. Mi ha rotto. Contro ogni tua aspettativa ti sei svegliato. E dimmi, che Idiota, cazzo vuoi? Se non sta prendendo fuoco la chiesa non mi interessa. Ira, la tipa che hai fatto venire fin qua. Non l'avevo detto stanotte, io l'avevo detto stanotte, se non gliel'avevo detto mente. Non lo L'avevo so, detto fatto la sta mattina. che. No, no, no. Però è qua, quindi svegliati. Ok, va bene. Infatti. Ce l'hai un caffè almeno? No, svegliati e Esiste il basta! caffè? Ha detto l'equivalente in canon del caffè, ok? Vabbè, un orzo. Ed è molto forte. E Adone dice: guarda che sta qua si stava per cavare gli occhi in No, ma chiesa è dove c'era un necromante, no, ma ci sta. medkit. Sì, lo so che lo so che ci sta. Lo so come sono fatti i necromanti, ma davanti a me no. Responsabilità tua. Scuisci come persona, va bene, mi porti sto cazzo di te così posso alzarmi un Ti do un attimo. altro pizzicotto. Ora si gira, dice: porco Dio, voglio dormire! E si rigira. Fine. Vedi, è colpa di Svegliati. Adone questa. Ti do un pugno in faccia, basta, mi hai rotto il cazzo, ti do un pugno e me ne vado. Sei molto sveglio ora. Sono molto sveglio, va bene. E seguo Scendo le Adone scale. bestemmiando anch'io. Che cazzo, Madonna? Lo faccio inciampare. Minor inconvenience, God. Molto bello, Ok, le mani di scopi, mi piace davvero tanto. sì, anche a me. E scendete le scale. Notate che qualcuno ha stuccato il buco nel muro che aveva fatto ora. Non ci avete fatto caso finora, forse era ancora aperto. Bravo Vesco. Eh sì. E no, vorrei sapere se Mif fa qualcosa nel frattempo, se Nibel fa qualcosa nel frattempo. Mif si sta bevendo il vino. In compagnia di Nibel, penso. Mi sta bevendo il gasolio. Gasolina. Adira chiede: trovi qualcosa di interessante nella statua? Continua a fissarla a blinking. Biff si gira verso Nibel e fa, cioè, e gli fa tipo uno sguardo da dire: chi cazzo ha trovato lì? Ma un altro a trovarsi. Sta bevendo già il quinto bicchierino, perché è tipo sciolto sulla poltrona con le mani così. Non lo so, vado a capire. Se respiri vicino a una candela, moriamo tutti. No, penso sia silenziosa la situazione. Perfetto. Sentite i passi di Lieto e Adone che arrivano. Niente, arrivati. Cioè, mando avanti dietro, vero? Sì, volevo sapere questo. Oh, finalmente il principe si è svegliato. E nessuno mi ha portato un canonical caffè. Madonna, ti spacco. No, E no, questo Adone. poi usa. Cioè, mi stava parlando nei sogni. Parla Gli troppo, parla. alzo il bicchierino a Lieto. Oh sì, il bicchiere della staffa. E lo tira giù come se fosse acqua. Avete, purtroppo, avete era magma. Ah, questa però è un'ottima bevanda, avete tua, Hannibal. Ricordati come si chiama. Mi faccio vedere la bottiglia. Respiro di drago. Ammiro la tua capacità di fingere normalità quando i tuoi organi interni stanno andando a fuoco. Stanno passando dallo stato solido allo stato gassoso senza passare per quello liquido. Lieto... Lieto la conosce questa cosa. E... vede la bottiglia. Ah, ah, sì, sì, penso qualcuno mi passi una candela. Ce n'è a pieno, è una chiesa. Qualcuno mi passi una candela. Prendo la candela di quelle che ci sono lì vicino, tipo, gliela passo. Soffi sopra la candela. Fiamma in sciosa. Sì, hai incenerito con successo una panchina e finalmente la sedia è diventata utile. Oh, fuck. Oh, mi spiace. Poi la sistemo domani mattina. È stato molto divertente. Ah, ah, ma tu che cazzo ci fai qua? Dovevamo vederci. Ma non mi pareva di aver detto stanotte. Avevi detto di venirti a trovare di notte quando volevo. Stanotte hai scusa. Non era chiaro. Non era chiaro. Oh, ok, ok. È stata una giornata molto lunga. Possiamo fare un'altra notte magari? Mi dai una mano prima? Cosa ti serve? Ho finito gli occhi. Le cavo un occhio de botto. Ma Dio mio. Grazie. Lei va alla macchina. Mi cavi anche gli altro, visto che... Ah, sì, sì, sì, non c'è problema. E le manco anche l'altro. Spiego le dita, cioè, sì, filo tre dita in un occhio e gli ho staccato. La differenza tra gente che ha degli amici di necromanzia e la gente che non li ha. Ciao, dove... Mi giro nella stanza tipo... Praticamente ce l'ha un'amica, ma fa altra roba. Esatto. I veri necromanti sono questi. Fanculo, Iona che è biomante. Cosa cazzo è? No, no, questo... Io sono seduto lì, guardo la scena, guardo il bicchiere. Forse ho bevuto troppo, mi sa. Adone fa, cioè, allunga la mano e dice: c'è qualcosa anche per me? Missa ti dà la bottiglia. Due bottiglie così. Se prendo un goccio e bevo. Lei quale sigla? Delle due? Quale delle due Adone? Beve Adone? Cosa? Non lo so. Uno è normale vino e l'altro Adone... è il soffio di drago. Allora, Adone prende l'altro prima. È quello che ha appena soffiato il vino incendio la panchina. E prenderò l'altro, allora. Prenderò il darti un indizio su che cos'è. Infatti, prenderò l'altro. Dio, vedete che Adone si diverta. Vabbè, allora prendo quella... Ok, prendo quella forte, oh. Bevo così vomito. Madonna. No, no, va bene, fai come vuoi, scusa. Dai, prendo quello forte, sto benissimo, immagino. La sensazione che provi... non è dissimile, bevendo quello forte, non è dissimile dalla sensazione che hai provato oggi, quando ti hanno mangiato delle parti del corpo. No, no, l'altro, e cerco di sciacquare via la sensazione bevendo altro alcol, non quello forte, quello meno forte. Hai purificato tutti gli dèi che c'hai all'interno. Sì, esatto, non hai visto nulla. Ma perché avete preso una cosa così? Bleh, intanto bevo l'altro. Così, attenzione che se bevi qualcosa di grado, cioè di meno forte, dopo vai a sboccare veramente. Meff è la grande lezione della vita, devi sempre salire. Non... Ma sì, starò vi bene. Auguro una buona serata. La ragazza se ne va. Dopo non ti dimenticare questi? C'ho tipo un occhio in mano. Grazie. Prego. Ciao. No, la prossima volta posso provare a mangiarlo, se vuoi, da un paio di giornate. Torna, ti interessa. Volentieri. Apre la porta. Un fulmine cade proprio un metro più avanti e dice: cavolo, c'è una tempesta. Chiude la porta e va. Vabbè. C'è una tempesta fuori? Sì. Ok. Beh. Noted. Ma andiamo a dormire? proprio no, i necromanti, i necromanti sono molto simpatici, ma non capiscono molto bene il concetto degli orari, I guess. Dimmi qualcosa di nuovo. Dimmi qualcosa che non so. Esatto. Dimmi di più. Oh, vai, che cagata. E questo fa intendere a Nibel che se è interessato di necrofilia probabilmente c'è uno slot anche per lui. Cosa? I am taking the distance. Rialzo i piedi barcollando, mi porto dietro la bottiglia. È la prima volta in anni che sei brillo così. Sì, sì. Però ci sono andato giù pesante. Ci sto giro. Mi trascino i piedi verso di sopra. Per le scale reincontri il vescovo, che ti dice tutto bene? Tutto a posto, vescovo, ho bevuto un po' troppo. Beh, una notte di sonno e passa tutto. Ti dà una pacca sulla spalla e scende. Certo, certo. Mi è sembrato, scendendo, vi vede voi tre, e dice... Mi è sembrato che... bussasse qualcuno. Sì, ma... cioè, è il vescovo questo. Sì. Sì, ma abbiamo già salutato, era un'amica di Lieto. Avete chiazze di sangue sul pavimento che ha pulito dal sangue tipo 2 giorni fa. 2 ore fa? Sì, 2 ore fa. Di cavarle. Ed è venuta qua a farsi guarire. Sì. Ho capito. Sì, la, le abbiamo dato una mano. E lei può tornare a dormire, non si preoccupa. Anzi, sì, lassi. Se le macchie di sangue le sistemo io adesso. Va bene, mi congedo per la notte. Buon riposo. A lei, buon uomo. A domani. Quindi mi rimangono Lieto, Mif e Adone. Lieto sta pulendo il sangue. Cerca tipo lo straccetto, l'acquetta. E che cazzo usa in sto secolo il sapone? Non c'è una olio di gomito. C'è il Sì. La Marsiglia, scusami. Sì, esatto. È grasso, fondamentalmente. Sì. È quello. Usa quello. Sul body shaming. Mi sa così. Mi inserite voi la vostra battuta preferita. Sì. Ma ecco. So fatto, la usano per lavare la chiesa di ieri. E niente, Adone si gira verso Mif e dice... Allora, andiamo a fare il tuo esperimento? Senza pressioni, Adone. Se vuoi dormire oggi, dormi pure. Ho bisogno di recuperare delle energie anche io. No, a dire il vero ci terrei che facessimo il tuo esperimento. Ok. Si può fare, penso. Non so se c'hai spell abbastanza per farle stasera. Infatti adesso sto guardando. Cioè... Prima ha detto lo faccio a te, lo faccio a Nibel, adesso non c'è nemmeno. No, perché ti può addormentare ma non ti può svegliare. Certo, ce la faccio. Qual è il problema? No. Cioè, non è che dormo per sempre. No, se tu c'hai un incubo non ti può interrompere l'incubo, non c'ha mana abbastanza per farlo. Vabbè, dai. Come vuoi, giusto? Sbagliato. ho sbagliato. No, cosa dice? Cosa dice Mif? Mif appunto ti dice: guarda, posso addormentarti, ma non posso svegliarti. Quindi qualsiasi cosa succeda, è lì da quel punto di vista sei da solo. Beh. A tuo rischio e pericolo, però se mi fulminerai ancora una volta dovrò prendere provvedimenti. Non lo faccio volontariamente, Mif. Spero che tu lo sappia. È importante per me che tu lo sappia. Io penso, secondo me, invece che una parte di te mi odi. No, cosa te lo fa pensare? No. Mif che si tracca dal vino, poi Che si tracanna il vino, poi guarda la bottiglia di vino e fa: io non capisco voi del sud come fate a bere sta roba, è meglio da birra. Guarda, nemmeno io, perché non sono del sud. E lì è, lo sai, me, l'altro sì. Del sud. Dai, io ti aspetto molto tutto, buona. Poi facciamo questo esperimento. Certo, ok. E va prima Adone e poi Miff lo segue? Sì, penso che Miff aspetti un po', cioè prima si fa una si ubriaca un pochino. Ok. Sì, sì. Ti devo ricordare che... No, lo so. Perfetto. Benissimo, quindi ho fatto tutto quello che devo fare da master, sono molto contento. Adone, vai per... cioè... sali le scale, arrivi alla tua camera e noti che la candela è alla fine. Non l'hai spenta. No. Okay. Quindi è, ormai è quasi consumata. Ragazzi, non so che cosa debba succedere, però a questo punto vado e, visto che sto preparando per andare a letto, lo spengo. Ok. È molto buio. Ah, figa, non c'era l'altra, giustamente. No. Vabbè, vado un po' a tentoni, ma... secondo me ce la fa Adone a cambiare, a mettersi in pigiama al buio e sì, mettersi sì, anche sì, lì sul letto. Quindi sì, sta lì. Ok, sei così stanco che ti sta prendendo sonno di tuo. Ok. Rollami di 10 to endure. Effettivamente. E mo via. La legge, la legge. No, fatichi perché sei veramente stanco, hai quasi finito le energie, però riesci a rimanere sveglio. Scendiamo di sotto. Penso che mi si ricordi di quell'uscita. Sì. E che quindi va senza dire niente. Sì. Giusto? Ovviamente. C'è Lieto in un angolo che sta pulendo. È vero, pensavo fosse andato a letto. No. Gli dice: ah, io ho un appuntamento. Non ho capito, scusa. Ti fa: Lito, io esco, ho un appuntamento. Ok, bene. Serve qualcosa? Ti serve un compagno? No. Okay. Avvisato ne che dovremmo posticipare. Ok, glielo dico. Glielo dico se lo vedo domani. Ciao. No. Glielo. Devi dire, deve prendere un sonnifero. Ah, ok. Va bene. Porco Dio, Lieto. Sono io l'agente del caos. Non so se hai capito cosa è appena successo. Se no, avete capito... più esco Lieto. Io non esattamente. Ci arriviamo. Ok, Miff esce, diluvia, cioè proprio tempesta, fulmini. Cosa fai? Cioè, te la colli? Cioè, aspetta. Posso prendere, tipo, c'è un cappotto o qualcosa di qualcuno? Probabilmente c'è un vestito del vescovo, però il vescovo sta dormendo, quindi dovresti rubarlo, fondamentalmente. Se per te non è un problema, puoi metterti le sopravvesti del vescovo. No, thank you. Io sto già dormendo e ho lasciato la giacca da qualche parte, su di prima. Ah, è vero, Prendi la giacca di Nipper, dai. Ok, Sì, aspetta, arriva probabilmente. Sì, capito. Ci puoi fare due giri intorno. È una... come un duvet. Bellissimo. Miff parte. Lieto cosa fa? E a questo punto... mi pare di aver capito che devo andare a dire ad Adone di prendere i sonniferi. E vado a prendere a dire ad Adone, guarda, coglione di prendere i sonniferi. La devi ruolare però sta cosa, mi spiace, ma è necessario. Sì. Prego. No. E... Adone in camera, immagino. Sì, Adone è il tuo letto. Ok. E busso. Adone? Sì, dimmi. Cioè, ha la voce addormentata. Cioè, e apro tipo la porta, tipo un mezzo spiraglio. E mi dice che devi prendere i sonniferi, a quanto pare, perché stasera non può, non ho capito bene. Comunque ha detto di prendere i sonniferi. Mi raccomando, e chiudo la porta. Ma E vabbè, rimane lì da solo e dice: ah, quella stupida, per non dire altro. Però ad un certo punto si alza, sospira e prende i sonniferi e poi torna a letto. Figata. Io ho paura, cosa sta succedendo? Io non ho capito nulla. Mi spiace perché, cioè adesso vorrei sapere cosa fa Lieto. Dopo sta cosa qua. Lieto direi che a questo punto ha pulito, ha fatto. Si sfaiba un altro bicchiere della staffa, ma mi pare di capire che Nibel è andato già a letto. C'è l'altra bottiglia, c'è l'ultimo goccio. C'è la... Perché quello... E... Se avete la stanza, ce l'ha, cioè tipo Nibel sta dormendo sul letto, ce l'ha in mano la bottiglia, se riesce a prenderla. Cioè... Su, fai la prova di sneak. Vai! Certo. Aspetta. Guarda, no, cioè, non... sta dormendo talmente tanto pesantemente che non dovresti far fatica a prenderla. Più che altro è più difficile toglierla dalla presa della mano che da svegliarlo, perché svegliarlo non lo sveglio. E noi ci tipo ugualmente. Eddie, guarda Telegram. Cazzo, 10, devi farne un altro. Perfetto, ci riesci, va benissimo. Devo fare una prova di resistenza. No, perché stai dormendo, quindi è solo okay, va bene. Dall'altro lato. E riesci a prenderla, riesci a berne quanto te ne serve per stordirti, e puoi andare a letto se è questo che vuoi. Sì. Allora, la notte per voi due sarà normale, cioè Lieto va a dormire, ha bevuto, quindi magari ha dei sogni un pochino più movimentati del solito, ma dorme. Nibel, dimmi. Ok, ci sono. Sei, ok. Nibel ha una serata, sì. Delle sue, cioè in cui hai bevuto tanto, vai a letto e boh, ci sta che tu sogni eventi del tuo passato, cose del genere, però comunque niente sì. Di paranormale. Secondo me stasera sono talmente steccato che non sogno niente. Anche. Mif ha un'intersessione che quindi vedremo poi. Ci sei? Sì. Perfetto. E quindi mi rimane solamente... Oddio. Mi rimane il solamente grande. Il grande Adone. Appena parte la musica. Che ho paura. No, ragazzi. Che bello. Quant'è che non succedeva? Oh, che cazzo deve succedere? Ma io ho preso i sonniferi, nessuno mi può toccare. Tu hai preso i sonniferi che ora a mano messo. Hai preso delle erbette. Era come bere dell'acqua fresca, non hai preso nulla. E Mif o se l'hai dimenticato o l'ha fatto apposta a lasciarti nella merda. In ogni caso, sei tu con i tuoi demoni. Sei contento, Eddie? Quanto sei contento, cazzo? Porco Dio, Sara, io ti ammazzo, Mif. Non credo di aver mai odiato così tanto un personaggio giocato con Angelica. Allora, a me piace anche l'idea che sia streamed, cioè il suo sogno è talmente forte che per gli altri è come se fosse il sogno, cioè avete tipo un quadratino nel vostro sogno, ok, che è il picture in picture di un altro sogno, ve lo godete, ma un side dream. Benissimo. Sei un bambino nel tuo sogno, ok? Stai camminando a piedi nudi in un luogo freddo, la nebbia, cioè proprio il freddo nell'aria ti riempie i polmoni. Dopo un po' che cammini ti si palesa davanti una lapide, è chiaramente una lapide, ci sono delle incisioni, ci sono, ok, cosa vuoi fare? Piccola domanda, io tratto il sogno come sono nel sogno o sono Adone che si è addormentato, sa di essersi addormentato eccetera? Ti ricordi tutto, ti ricordi di essere addormentato e ti ricordi anche abbastanza bene quello che ti ha detto Mif dei tuoi sogni. Ok. A questo punto vado... Ok, vabbè. Vado a vedere la lapide e vedo cosa c'è scritto sopra. C'è un nome generico del tuo paese, Smissum qualcosa. Sì. Ok. La data è coerente, cioè è nel passato, chiaramente, è morto, è nato nel passato. Come età potrebbe essere tuo nonno, se è un parente, oppure una persona della sua età. Certo. Ok, c'è una tomba effettivamente, vedo che c'è il terreno mosso. Vedi i tuoi piedi, cioè la nebbia copre come se ci fosse, hai presente il fumo per terra? A questo punto provo ad andare avanti. Perfetto. Man mano che cammini, senti l'eco dei tuoi passi e nessun altro suono intorno. Forse in lontananza ogni tanto un fulmine che cade. Qua il confine tra sogno e realtà si fa più lieve. E raggiungi un albero enorme, per te è proprio un albero colossale, sembra una quercia millenaria, da tanto che è larga. E appoggiata a questa quercia c'è una donna altissima. Capisci che è una donna perché ha delle figure più femminili, però in effetti non riesce a vedere, sui tratti facciali non riesce a vedere nulla. Ed è bianchissima, sembra fatta di pietra. Adone parla e c'è un po' di dissonanza fra quello che vorrebbe dire con il tono che vorrebbe dire e la sua voce, il suo modo di fare da bambino, che quindi parla da bambino e dice: signora, mi può aiutare? Questa voce comunque è molto da bimbo. La tocchi? Ok, Sì, la tocco. senti che la pelle è freddissima e morbida, quindi è pelle normale, non è Sì. effettivamente marmo. È come se il sangue le fosse stato completamente rimosso e quindi la pelle è rimasta completamente bianca. E se la tocchi, se la spingi, cade. Cade dall'altro lato. Io si spaventa al minimo e provo ad andare a vedere la faccia. Finalmente ti avvicini abbastanza da averla davanti al tuo volto e riconosci in lei un viso familiare, un viso che negli ultimi 30 anni della tua vita non hai mai ricordato, un'immagine che era scolpita nella tua mente di bambino e poi era stata cancellata, e quella è tua madre. Adone subito ha uno scatto all'indietro di sorpresa più che paura e prova a guardarsi intorno come a cercare qualcuno che non c'è comunque. Anche se ci fosse la nebbia, copre. E a questo punto Adone corre via, vuole andare oltre la quercia ancora. Ok, corri, non lo sai, ma stai correndo al centro dell'area. E al centro dello spiazzo c'è una entità, in mancanza di altri termini, molto più grande di tua madre, colossale, mastodontica, metallica, gelida, che si erge in piedi fino al limite del cielo che puoi vedere. Adone la guarda e prova a girarsi, cioè dietro di lui c'è qualcosa, c'è qualcuno. Da questo punto, intorno alla creatura, la nebbia non c'è, come se gli stesse lontana, mentre più avanti è talmente fitta che non riesce a vedere niente. A malapena riesce a vedere il cielo. A questo punto Adone si gira di nuovo verso l'entità e titubante si avvicina fino a quando non riesce a tipo mettere una mano o toccarla. L'entità, nel punto in cui la tocchi, è come se si stesse caricando. E una luce blu inizia a filtrare al suo interno. È come se fosse sangue che viene irrorato all'interno. Anima questa creatura che si piega in avanti ed è molto più grande di te, quindi ti può avvolgere completamente. Le sue braccia sono ai tuoi lati, la sua testa è perpendicolare sopra di te. E parla come se fosse dentro un megafono, come ok? E dice: ho qualcosa che non potrà mai mangiare. Ho qualcosa che non potrà mai mangiare. Ho qualcosa che non potrà mai mangiare. Ho qualcosa che non potrà Le mai stacco mangiare. la mano. La nebbia si dissipa, dissipa, termine, sì. Dissipa, sì. Sì, e inizia a vedere tutto intorno, che è effettivamente un cimitero, ci sono delle tombe, ma è pieno di persone che rispetto a te sono gigantesche, tutte come tua madre, cioè alle quali è stata risucchiata la vita, e sono tutte a terra, tutte morte. E la creatura, anche se le smetti di toccarla, continua a caricarsi. Riesce a vedere chiaramente che ha un buco al posto della faccia, una cavità. Rifà la voce come prima. Ha risucchiato il mio cuore, ha incendiato la mia anima. Ho provato a fermare il mio cuore, a fermare la sua crescita, ma ho pregato la grazia di ricoprirmi nella neve. Sto morendo e spero che morirai anche te. Adone a questo punto è spaventato e corre, prova a correre via. Ora la voce si fa quasi umana. Ho trovato il centro, il frutto. Ho trovato il centro, la verità. Taglieremo la mela in due e pregheremo che è tutto falso. Delle catene nere scompaiono dal cielo e si attaccano, si agganciano alla creatura e la tirano su. Ok. Sembra... E io... Vai, vai. Adone a questo punto vuole scappare. Okay. Vuole andarsi. La creatura sembra ora un angelo, con le braccia aperte nel cielo. Questa catena non si capisce da dove arrivi, arriva fino in cima. E te ne vai. Se non vuoi fare nient'altro, finisce qua il sogno. No, credo che Adone se ne vada. Perfetto. Apri gli occhi ed è mattino. E la sessione finisce qua. Okay.